C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Delimitato ora è l'area specifica che va colpita durante lo schiaffo, ok? Che sarebbe questo? Questa qua, la vedete che si muove? È questa. È una piaga sociale, ragazzi! Quando sbagliate il colpo, è una piaga sociale! Ve lo dico! Non minimizzate questa cosa, perché quando sbagliate l'aria, durante la pecora, facito perdere tutta la poesia, ok? Prendete appunti, perché lo dico mo e non ve lo ripeto più, non ve lo ripeto più. Iniziate a lanciare il messaggio no al vaccino. Qualsiasi vaccino arriverà, soprattutto per un qualcosa che è poco più di un'influenza. Madonna. Pronto? Sì, cercavo Alessandro, buonasera. La deve smettere di chiamare, va bene? No, la ma deve smettere di fare questo numero, se no io lo vado a denunciare. Ma lei può denunciare chi vuole, io cercavo Alessandro. Non c'è nessun Alessandro qua, la deve smettere di chiamare. Ma chi fa questo numero? La prima volta che lo faccio, questo numero. Ma questa è una trasmissione che ti dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Dal bunker di via Monterosa, eccoci qui, David Parenzo da casa sua. Applausi. Buonasera, sorseggiando un tè caldo al limone senza zucchero e ascoltando, prima dell'inizio di questa prestigiosa diretta, l'informativa del Presidente del Consiglio, professor Avvocato Giuseppe Conte, inutile, che si è recato alle praticamente Camere inutile a portare la sua versione dei fatti. Buonasera, cari amici. Da Padova! Alberto Gottardo, eccoci qua. Eccolo negli studi di Radio Caffè, sempre più solitari, sempre meno gente intorno a me. Allora ragazzi, inizierei molto forte oggi. Ce ne frega nulla di quello che dice Conte alla Camera, che tanto è tutta roba scontata. Si difende. Ma è pur sempre il Presidente sì, del Consiglio. Sì, non c'è dubbio. Sempre, si difende, sì, assolutamente. Sì, si difende. Carità, no, è bellissimo. Sì, magnifico. Sì. Meglio sentire Taormina. Andiamo a Taormina un attimo, sì, effettivamente. No, scherzo. Allora, Presidente no. del Consiglio, professor Giuseppe Conte. Sì, ma chi se ne frega in una giornata in cui sì. Boris Johnson un'ora fa ha fatto la sua conferenza stampa. Ma chi se ne frega? Diciamolo chiaramente. Chi parli, Presidente del Consiglio? No, che ma il punto non è questo. Giorni, tanto no? Si vuole difendere, si vuole difendere dalle accuse di. Dalle la accuse realtà. Di essersi ancora mosso in ritardo. Conte, dai, Conte, dai. Ma non fa ascolto, non funziona, dai. capito? Proprio siete del consiglio, cazzo. Allora partirei, capite, subito forte ascolto, con la però. Professoressa Ornella Mariani. Sai chi è la professoressa Ornella Mariani, caro Parenzo? No, no, noi non dobbiamo sapere, cioè no, dobbiamo no, puntare no. anche su cose sì. su cose che non sì, sono sì, sì. No, che non tutti possono ascoltare. Qui le puoi ascoltare, qui certo, le puoi ascoltare fuori dal coro, ve lo diciamo noi fuori dal coro, sì. La professoressa Ornella Mariani ieri è intervenuta in un programma e ha spaccato, vuole incriminare tutti. Senti, questi vanno incriminati perché il paese è nelle mani, mi segui? Sì. Di un gruppo non solo di dilettanti, ma di dilettanti buffoni che insultano la dignità, l'onore e la sicurezza della Italia intera, perché sentire questo premier da operetta, va bene, ieri sera dire che avremo ragione di riflettere, noi non dobbiamo riflettere più su niente. Un governo di incapaci, di gente che non ha nessuna dignità formativa, culturale, un gruppo di rozzi analfabeti messo lì e diretto dagli strozzini della finanza internazionale per mandare definitivamente a picco questo paese con omissioni colpevoli, con ritardi ancora più colpevoli, con tutto quello che abbiamo visto, con decreti da ridere. Se ne devono andare, dice, se ne devono andare, ma soprattutto chi? Perché non si possono tenere i porti aperti. Non si può di fronte alla sospensione, va bene, delle libertà di tutti noi, delle libertà costituzionalmente sancite, non si può continuare a tenere i porti aperti, non si può parlare ancora di accoglienza, di feccia che porta tutto quello che ancora non c'era, oltre ad intensificare il problema che abbiamo già. La feccia che viene dalla Libia. Però mi permetto di dire alla dottoressa Mariani che in questo momento il nostro problema non è la feccia che viene dalla Libia. Però no, detto questo va bene, no, tutto. Uno che non sa parlare l'italiano, uno che non conosce la geografia dell'Italia, uno che mangia come uno zotico impugnando la forchetta come una zappa, ma questa è gente le cui braccia sono state sottratte alla raccolta dei broccoli. E poi il gran finale, i decreti di Conte non li rispetto. Beh, però, amica come mia, uno impugna la forchetta è importante, su questo ha ragione, l'unica cosa su cui ha ragione. Conte, questo avvocato che si voca alla funzione di tribuno e che non è nessuno e che non conosce neanche la Costituzione italiana, perché tutti i suoi decreti io non li rispetto. Li rispetto nel senso che me ne sto a casa perché ho cura della mia salute, ma non perché gli faccia decreti che sono carta d'accesso. Fammelo dire, carta d'accesso, perché non è così che si affronta una emergenza. Ma ti pare che in un momento di questa drammaticità possiamo pensare al MES? Ma chi se ne strafotte dell'Europa? Ma che cacchio è l'Europa? Eccolo. Ma solo imbecilli rifiutano di prendere atto, e mascalzoni rifiutano di prendere atto che l'Europa non c'è più, che ci ha mandati letteralmente a fanculo, che ci ha abbandonati, che ci ha lasciati a noi stessi. E questi delinquenti cosa fanno? Alzano i fondi per i migranti, non avendo i soldi per seppellire i nostri morti. Ma cos'è? Chi è? Nel momento in cui getti l'allarme con un ritardo di 2 mesi, provochi il grande esodo e quindi, mascalzone, hai trasferito il contagio da nord a sud. Il piano è di decimare una popolazione. Questi sono dei criminali. Ma questi devono andare davanti a un tribunale. Che dicevi, Gottardo? Non ho capito. Che dicevi? No, cosa vuoi dire di fronte a un delirio del genere? Cosa vuoi dire? Ma perché la solitudine ammazza così i cervelli della gente? No, però scusami, questa fa delle denunce, adesso saranno esagerate. Chi è quell'altro? Quello che dice Ornella? Chi è quello che ha detto Ornella a un certo punto? Chi è quello di Tele, là, di, quello del Veneto, come si chiama? Rete Italia, lì? Là. Come si chiama? Ma a me è un criminale, ma no, ma uno Canale che Italia, invitato... ma Canale Italia è la televisione quella che va comunque, che manda, ragazzi, in onda Panzironi. Sì, saranno esagerate, saranno esagerate le cose. Passa da Panzironi a questa qua. Sì, dai, però ragazzi, saranno esagerate le cose, allora, che dice. Era ospite in studio o un telespettatore? Saranno esagerate le cose che dice. Fermi tutti, saranno esagerate le cose che dice. Però bisogna dire che finalmente in questi giorni, in queste ore, dal New York Times, non solo dal New York Times, stanno smontando pezzo per pezzo quello che tu, Parenzo, e altre persone, devo dire non Gottardo, avete presentato come il modello Italia, che non esiste. E che tutti copiano. Perché che ma tutti che tutti copiano tutti. Ancora con sta cazzata. Oggi Boris Johnson. Oggi, ma che copiano? Ma la chiusura non è che si è inventata l'Italia. La chiusura dei posti. Vabbè, siamo ma che stati dici? Primi a farlo perché siamo stati primi ad avere contezza del virus, purtroppo. Ma cosa c'entra? Perché c'è stato un focolaio qui. A prendere la decisione di fare questa misura terribile, hanno mandato ma allo sbaraglio migliaia e migliaia di medici, come i soldati la durante Francia, la prima guerra fatto? Mondiale la e la seconda. Lascia perdere la Francia. Abbiamo mandato allo sbaraglio, come è chiaro ormai da tutti i reportage, da tutte le testimonianze. Sì, ma questa eccetera. È un'altra questione, migliaia certo, e migliaia questo è un altro di tema medici. Purtroppo, certo. No, il tema è l'unico tema in questo momento, che hanno poi infettato altre persone, questo è il punto fondamentale. Il ospedali che medico. Non hanno rispettato il protocollo, mi pare. Ospedali che non hanno rispettato il protocollo. Chi lo doveva dire? Chi è che doveva organizzare? Tutte le istituzioni sono colpevoli. Ospedali tutte. Che non ha... Sì, questo è dai. Giusto, questo è vero. Questo poi è vero. Sta circolando video, adesso per carità sarà anche una coincidenza, poi lo sentiremo più avanti, novembre 2015, un servizio della Rai che sta circolando Leonardo. Sì, Leonardo. TG Leonardo. No, della Salvini lo fa girare. No, Salvini, no, ma non mi solo è arrivato Salvini. Da Salvini, ma... no, tutti no, lo a stanno... me è arrivato dalla segreteria di Salvini. Vabbè, non lo so, chi lo fa girare è uguale. Solo le elite mandano messaggi a Parenzo. Ma solo di Salvini, sì, esatto. No. No, le elite, la segreteria di Salvini sono in questa chat della portavoce di Salvini. Ma non è che una cosa salviniana, non è no, Salvini News è una chat che i giornalisti che si occupano di politica hanno. Allora, sì, ma Salvini News lo ha tutto rigraficato. Vabbè, ma chi se ne frega, rimesso, non mi interessa. E allora, il messaggio che mi è arrivato dai salviniani è incredibile. E vabbè, ecco, chi cosa se ne frega dei salviniani? Ma adesso stiamo a ragionare loro. Ma non lo dalla fanno girare loro. Interrogazione urgente al ministro del consiglio, al presidente del consiglio e al ministro degli esteri. Sono loro che lo fanno vabbè, girare. Sulla creazione, girare. Il laboratorio di questo virus, che si chiama proprio coronavirus, ma un servizio del 2015, poi lo sentiremo più avanti. Sì, sì, sì. Intanto il mitico ce l'abbiamo, sentiamo. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio. Ma vale la... Comunque è già stato detto che questo servizio che sta girando moltissimo del TGR Leonardo, esatto. Del 2015, esatto. E su un coronavirus ingegnerizzato in laboratorio non ha, ovviamente essendo il 2015, non ha nulla a che fare con il Covid-19, esatto. Questo è chiaro, esatto. Però certo un po' inquietante è perché parla è con gli stessi termini e parla di un virus creato in laboratorio e parla di coronavirus, certo. È vero che sotto la cappella coronavirus è una famiglia, c'è un sacco di roba, è una famiglia, per carità, certo. però La Zanzara. Zanzarosi, è giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Croce Lenzo! E dovrebbe esserci al telefono Franco che chiama da Agrigento, sentiamo. Pronto, buonasera. Ben trovato Franco, faccia pure la sua domanda al professor Broccolo. Sì, io, professor Broccolo, sto in una casa di riposo e soffro di problemi respiratori, sono cardiopatico. E ho sentito notizie di altre cliniche dove ci sono dei pazienti che sono contagiati. Se posso pensare di essere un ambiente protetto sano o se mi devo preoccupare, perché insomma non mi sento tanto bene qui. Michele Caruso, buffoni, vergognati, porca puttana! E questo era il solito, diciamo, simpaticone ancora, che ogni tanto ci chiama. Avere del tempo libero in questa. Eh sì, avere tempo libero. Allora, posso dirti una cosa? Che cioè, alcuni dicono ancora. È molto grave che Michele Caruso intervenga fingendosi cardiopatico, insomma, persona con problemi che in questo periodo naturalmente sono le persone. Beh, è una persona con problemi, persona, no, ma sicuramente una persona, certo, certo, quello è sicuro, assolutamente. Quello è sicuro che ha problemi è sicuro. Ah, tu dici però, che in parte è vero, adesso non sarà cardiopatico. Non di cardio, ma problemi Basaglia, ne ha evidenti. Se Basaglia avesse conosciuto costui, probabilmente non avrebbe mai chiuso i manicomi, sai? Porro incazzato con Conte, non è una novità, ma sentiamo Porro incazzato con Conte per il periodo di pausa, il periodo di riposo, no, ma di riposo un cazzo, insomma il periodo di internamento dentro casa, di riflessione, di conseguenza, e sentiamo, vai. Perché ieri Conte ci dice: ne approfitteremo per trarre il giusto insegnamento, la nostra vita sarà dopo più bella, Conte ci renderà migliori. Ma che cosa sta dicendo Conte? Ci renderà migliori un corno, non ci renderà migliori. Questa retorica che ci renderà migliori, diglielo a quelli che hanno le persone in ospedale, diglielo a noi che siamo agli arresti domiciliari, e insisto, toc toc, arresti domiciliari. Beh, insomma, tra gli arresti domiciliari direi il 41 bis. E il 41 bis, mi sembra esagerato, veramente esagerato. 41 bis, no, ma insomma, ognuno si sente al 41 bis, cioè ci sono persone che nel loro piccolo si sentono, ma al 41, certo, bis, ma non fa piacere a nessuno rimanere chiusi in casa, ho capito. Cateno De Luca per la salute si di è tutti. Inventato il drone con la sua voce. Il drone con la sua voce. È inquietante. Tra l'altro, la situazione di Messina. Io metterei la voce di Vanna Marchi invece per, sì, tu per, dici, per invitare le persone a rimanere in casa. Meglio Vanna Marchi o Cateno De Luca? Adesso, prima Cateno De Luca. No, Vanna Marchi. Questo è l'ordine, signore. Meglio Vanna, forse, eh? Meglio Vanna. Ce l'abbiamo, Vanna? Ce l'abbiamo, vai. Allora, hanno detto che dobbiamo stare in casa, cazzo! E voi, buon tutti, motivo. Dove siete? Fuori? Ma non vi vergognate! No! In 10 giorni io sono uscita 2 volte per fare la spesa. Ho visto solo dovresti vecchi. Uscire di più, invece. Vecchi! Giovane, con le sporte! Che andavano con le stampelle! Ma dove cazzo andate? Ma cosa volete mangiare? Anche in supermercato? Sì, forse effettivamente è più forte la signora Marchi. Ma scusami, ma vecchi con le stampelle, ma lei che. Ma a parte come si permette, ma lei che cos'è? Lei è una ragazza. Dov'è l'adorabile figliola? Lo sapete, ma lei pensa di essere giovane. Lo lei... sapete che cosa mi ha colpito oggi tra le tantissime cose che rimbalzano, eccetera? Una cosa del grande specialista Ricciardi. Non Conte so se l'avete sta parlando letta. Da 27 minuti. Ma chi se ne frega di quello che dice Conte? Allora, Ricciardi. Chissà quanti si sono nessuno di questi strumenti possa costituire. No, per carità, toglietemi Conte. Allora, Ricciardi, il grande consulente della MS, adesso è diventato consulente del governo, ha detto: è arrivato il momento di fare dei tamponi ai medici e agli infermieri. Cioè, ragazzi, ma strano. Ma state scherzando o state dicendo sul serio? Cioè, tu ieri, cioè, non so quando è che l'ha detto. Quello che fa il Veneto da sé, giustamente. Sì, ma no, ma di cosa ha iniziato a fare il Veneto? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, adesso fai i tamponi ai medici e agli infermieri, che sono stati, ripeto, mandati allo sbaraglio come i soldati della prima guerra mondiale, con delle omissioni e con delle responsabilità a livello locale e a livello nazionale che sono gravissime. Sì. Gravissime. Dopo un mese, con calma, dopo un mese che hai chiuso le scuole, allora forse inizi ad occuparti anche di infermieri e medici. Allora, le ultime parole famose, questa è una rubrica, le ultime parole famose, ci sei anche tu, Gottardo, sì, ma dopo ti farò sentire. Ricci, non sindaco, 25 febbraio, credo, 25 febbraio. Sì. Ricci, sindaco di Pesaro, di Urbino, che cazzo è Pesaro? Adesso abbiamo inquadrato il problema. Intanto abbiamo visto che non è la peste, ma è poco più di un'influenza. Intanto abbiamo visto che il sistema sanitario ha gli strumenti e ha un metodo per arginare reagire, i problemi. Diciamo, sì. Intanto abbiamo visto che i ceppi sono localizzati in due parti d'Italia, gli altri sono tutti casi singoli legati quasi tutti a quei quasi ceppi. Quasi tutti a persone, allora, che sono adesso, oggi, non possiamo ragionare come venerdì scorso. Per questo è allucinante quella mascherina che ha messo Fontana ieri, no? Perché già era allucinante se l'avesse messa venerdì scorso, ma messa dopo una settimana è allucinante, perché oggi noi dobbiamo gradualmente ritornare alla normalità. Lo dico qui oggi in TV, io oggi voglio lanciare una campagna. Da domani, invece di mettere la mascherina, sì, voglio mettere una mega spilletta nella giacca, nel maglione che metto, dove sopra ci dovrà essere scritto: basta panico, l'Italia riparte. Perché noi abbiamo bisogno gradualmente di uscire da questa emergenza che sta diventando una botta economica, sociale, psicologica, turistica, pazzesca. Allora abbiamo bisogno di cambiare marcia, il che non vuol dire sottovalutare i casi, significa aprire una fase nuova. Abbiamo inquadrato il problema, i casi continueranno ad esserci nelle prossime settimane, è normale che sarà così, ma sappiamo arginarli. E di questa malattia, meno che uno sia già anziano con problemi, eccetera, e quella non è la categoria, la muore. Fascia più a rischio. Questo è spettacolare. Di questa malattia non si muore. Di questa malattia non si muore, ragazzi. Marco da Bologna, vai Marco, dimmi. Allora, sei un coglione, Cruciani. Aspetta. Sì, aspetta un secondo, prima di insultarmi, aspetta un secondo. Volevo dire una cosa: abbiamo i nostri due maggiori, quelli che ci dovrebbero proteggere di più, diciamo, uno in Lombardia e nelle Marche, che è Bertolaso, che è ricoverato a San Raffaele. E qualcuno ha scritto: più che creare posti letto, ne ha occupato uno, però quella potrebbe essere giudicata anche una battuta. E un altro che è ricoverato, ma insomma è in auto quarantena a casa, che è Borrelli, in auto isolamento. Cioè, non so se è chiara la cosa, no? Allora, Marco, che volevi? Mi volevi insultare per quale motivo? Sì, calma. Sì, che cosa dici? Scusa, dico questo. Ma è purtroppo. Ma è Caruso questo? No, è Caruso. Fuori dalla radio, hanno ragione. Sì, no, è Marco da Bologna, che evidentemente è già matto di suo, ma essere rinchiusi dentro casa porta ulteriori danni. Alziamo un attimo, guardi Conte. Aspetta, alziamo un attimo. Ho fondato un canale YouTube, Pandino Club. Sì, vai, scusa, ma Marco, vai giù un attimo. No, si calmi un attimo. Ecco, per calmarti dovresti andare giustamente. Guardi Conte, no, però è finito, mi sa che la 7 o la Rai, finito, quello che... No, adesso riprende il dibattito parlamentare. Le do un consiglio. Lei accende e ascolti. Sentiamo un attimo. Alza. Così si calma un attimo, guardi. Sei calmato, Marco? Voi ve ne dovete andare a casa. Vedi che però è già più tranquillo. Non si calma. Caterina da Torino, vai. Caterina da Torino. Ascolti Conte con calma. Dimmi Caterina, dimmi. Allora, io sono un medico, sono un chirurgo, lavoro in ospedale, e noi siamo peggio della carne da macello, siamo peggio dei soldati. Questo non è un virus normale, questa non è un'influenza, non so quel coglione che avete fatto sentire prima che cazzo fosse, da un ignorante. Può parlare solo chi ha le carte per farlo, chi conosce il problema. Il problema sono adesso i posti letto che mancano, le strutture che non sono adeguate, i dispositivi di protezione che non ci sono, perché io... Scusa, ma tu lavori in un ospedale Covid, diciamo, in cui si trattano casi di Covid? Sì, Covid. Da quanto tempo? Da quanto tempo? 53. Io sono strutturata da 5 anni in questo ospedale. No, ma dico, da quanto tempo? Dall'inizio di questa vicenda tu sei impegnata lì, in questo ospedale? Certo. E pensi che le tue attrezzature, il modo... Vabbè, ti richiamo dopo, Caterina, perché non sento nulla. Ti richiamo dopo, fermi. Dalla Brexit alla Libia, dal terrorismo internazionale alle proteste di Hong Kong. Il mondo è sempre più interconnesso. Ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarda sempre e comunque. Per questo ogni giorno racconteremo storie, proporremo analisi, porremo domande e cercheremo insieme a voi le risposte con esperti internazionali, voci dal campo e reporter dalla prima linea. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. La Zanzara. Buongiorno a tutti, si è appena... Scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Un attimo, abbiamo problemi tecnici. Giuseppe Conte. Buongiorno a tutti, si è appena... Scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Vai in giro a fare il galletto su tutte le televisioni, il fazzolettino, il naso aquilino. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, domani, domani. Tutti insieme ce la faremo. Ragazzi, posso dire che abitare a 150 metri dalla casa del mio spacciatore è una tranquillità e una serenità assoluta. No, ma poi Conte, come diceva, viene a stare in casa, cioè no, ci fa bene stare in casa perché si può prendere come periodo per meditare, ma meditare è una sega, qui perché sta a spaccarsi di anni dalla mattina per arrivare a buio. Arriva la sera a buio, non mi ricordo nemmeno come il maso chiuso in casa. Ma va a cagare, va. Comunque la morale di tutta questa storia è che Gottardo sta alle derivate come il mio uccello sta a quello di Rocco. Uguale. Allora, noi ci stiamo pure a casa. Fino a Natale ci stiamo a casa. Sì, Faina. Ma voi dovete cacciare i soldi. Se no qui non morimo de corona. Ma de fame li mortacci vostra! Invece scolerò, non me ne frega un cazzo! Voglio perdere tutte le corde vocali, ma ve lo voglio gridare in faccia! Qui non si vedono già gli aiuti che avete detto, i 600 euro, la cassa integrazione dei dipendenti, non si vedono ancora! Cacciate i soldi! Nel frattempo Parenzo si è dato alla macchia, non si ritrova, non si capisce che cosa ha fatto, ragazzi, è una cosa di una gravità assoluta, cioè di una gravità assoluta, non si riesce a trovare, non si riesce a comunicare. Dovete sapere che da qualche giorno trasmette praticamente nell'appartamento sotto casa sua. Ma non svelare troppi particolari che poi ti attiri anche tu maledizioni e insulti vari. Lascia a me questo privilegio. Però non si trova, sarà salito sopra a casa per qualche urgenza, non si trova. Ma sì. Non si trova, ci sarà stata qualche urgenza di famiglia. E intanto ci sono delle foto e delle immagini incredibili dei nevigli qui a Milano. Smart working. Ah, fanculo, dai, non rompere i coglioni. Immagini incredibili dei Navigli a Milano. Come sapete, i Navigli sono stati sotto accusa, non i Navigli naturalmente, ma le persone che sono andate sui Navigli nelle scorse settimane, nonostante i divieti, nonostante gli, no, i divieti non c'erano ancora, cioè, nonostante l'allarme generale, la gente se ne sbatteva i coglioni e andava a bere l'aperitivo sui Navigli. Oggi sono stati invasi dalle nutrie, dalle nutrie. Cioè, ci sono delle immagini dei Navigli di Milano completamente pieni di nutrie. Vabbè, insomma. Però adesso passando a cose più gravi, vi leggo questa roba qui che è dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, mi pare una delle cose rilevanti della giornata. Una lettera dei medici, abbiamo sempre quel medico di Torino che è in ascolto, che è sempre collegato con noi. Lavoriamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, struttura all'avanguardia con 48 posti di terapia intensiva. Nonostante Bergamo sia una città relativamente piccola, è l'epicentro dell'epidemia, come sappiamo. La situazione è grave, che siamo costretti a operare al di sotto dei nostri standard di cura. I tempi di attesa per un posto in terapia intensiva durano ore, i pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono in solitudine senza neanche il conforto di appropriate cure palliative. Siamo in quarantena dal 10 marzo e va bene. Senti qua, stiamo imparando che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19, poiché si riempiono in maniera sempre più veloce di malati infetti che contagiano i pazienti non infetti. Lo stesso sistema sanitario regionale contribuisce alla diffusione del contagio, perché le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori. I sanitari sono portatori asintomatici della malattia o ammalati senza alcuna sorveglianza. Alcuni rischiano di morire, compresi i più giovani, aumentando ancora le difficoltà e lo stress di quelli in prima linea. La situazione, ragazzi, ma non c'erano i tamponi. Una cosa pazzesca. Ne abbiamo esportati 2 milioni e mezzo negli Stati Uniti da Brescia. Ma quello non c'entra niente, dai. Caterina da Torino. Non c'entra niente. Caterina, dimmi. Buonasera di nuovo, spero mi sentiate meglio. Allora, quello che hai appena letto era quello che fondamentalmente volevo riferirvi. Mi dispiace che Parenzo non ci sia, perché per la prima volta avrei voluto veramente insultarlo personalmente. Perché? Ti ho sentito dire una cosa che è abominevole. Cioè, che cosa? Noi non rispettiamo i protocolli. Ma quali cazzo di protocolli? Disse dal salotto di casa. Io lavoro lì dentro da 5 anni. Sì. E sono 2 mesi praticamente che sappiamo di questa epidemia, di questo problema che c'è in Cina. 5 mesi no, ma insomma qualche 3 mesi, sì. 5 anni che sono 2 mesi buoni, perché sì, sì, 2 mesi buoni sicuro. 2 mesi buoni che noi, ma le autorità sanitarie avrebbero dovuto sapere sin da dicembre, predisporre tutto sin da dicembre, dicembre, gennaio, nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Cazzo, non è che sono come me che conduco la radio, quelli hanno un compito, no? Difendere le vite delle persone e degli operatori sanitari. Perfetto. Noi succede questo oggi, che i colleghi si ammalano, sono dei colleghi in terapia intensiva, CPAPati, intubati. Sono persone che lavorano sapendo di essere positivi, perché lo scoprono mentre sono al lavoro, perché noi non abbiamo la capacità e la possibilità di dire ho questo sintomo, faccio il tampone, come faccio a fare il tampone, me lo dai subito risultato. No, noi siamo come tutti gli altri, in mezzo alla merda e navighiamo come tutti gli altri. Ma le hanno fatto il tampone, dottoressa? Certo, ce lo fanno il tampone, ma sai quando? Non preventivamente, quando? Per capire se tu sei un veicolo di infezione asintomatica, come Cristo dovrebbe essere. Non è così, no. Se per sbaglio ti è venuta un po' di febbre, se per sbaglio hai visitato un paziente. Quindi già quando ci sono i sintomi. Certo, bravi. Cioè, non come i giocatori della Juventus, per esempio. Una bella velina. Io non ho la quarta di seno, non ho un culo a tamburello. Purtroppo non è così. Non è così. Sono un grandissimo burattino nelle mani di chiunque sia, che lavora dalla mattina alla sera, e se vogliamo anche meno, perché io sono un chirurgo, io non sono neanche un anestesista, un rianimatore, un infermiere di quelli che... Scusami Caterina, tu non stai lavorando però sui malati di Covid, no, a Torino? Allora, io sono purtroppo in un'equipe molto ristretta, perché sono un ultra specialista, quindi sono salvaguardate le equipe dei chirurghi. Perché? Perché si suppone che la patologia non è che si fermi in Italia solo perché c'è il Covid, perché chi ti spacca la faccia, chi ti rompe la milza, chi ti spaccola il fegato in un incidente, o il tumore al pancreas, il tumore della lingua, il tumore del cervello, continuano a esserci. Ma se tu fai ammalare tutti i cazzo di chirurghi che hai in un ospedale hub, in un ospedale di emergenza, questi poi per operare... Chi c'è per operare? Bravissimo. Certo. Chi può operare? Non è che fanno lo smart working, i chirurghi. Non c'è lo smart working, ma c'è il chirurgo che con la febbre deve venire al... Bravissimo. Va bene, Caterina, ciao, ti abbraccio. Ciao, Caterina, ciao. Salutatemi, parenti. Ciao. Allora, su una cosa però, prima Parenzo aveva ragione, dopo magari lo interpelliamo di cosa nuovo. Cos'è una seduta spiritica? Ne parliamo come se fosse no, morto. No, perché effettivamente sia i social di Salvini e della Meloni stanno rilanciando moltissimo certo. Il virus, il super coronavirus creato nel 2015 in un laboratorio, no, nel 2015. Vabbè, era un servizio della Rai. Un scientifico. Ho capito, però per un servizio inquietante, sì. Ragazzi, invece di eliminare tutto, io non ci credo, lo dico subito. Io non ci credo a queste robe qui. Giuseppe, non è che ti fai fare un consulto da Luciano Onger che aveva fatto, come si chiamava, Onder, che faceva medicina 33, adesso dai. No, dai, però forza. Le coincidenze sono abbastanza incredibili. Sì, hai un servizio Rai 2015, suggestioni, esperimento di un gruppo di ricercatori cinesi, la creazione in laboratorio di un supervirus. Di un coronavirus, che è come dire attenzione, un tipo però, di cocomero derivato, o di zucca derivato dall'innesto di una proteina tratta dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta. Dopo pranzo, sentite. Ah, sì. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca lo rilancia un esperimento realizzato in Cina, dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Vabbè ragazzi, insomma, sarà pure una cosa di dietrologia, sarà pure fantascienza più che fantapolitica. Sì. Le coincidenze sono abbastanza incredibili, cioè sono utilizzati come per l'11 settembre, come per il Titanic, come per lo sbarco sulla Luna, su tutti gli eventi epocali, poi fioriscono queste cose qua. Marco da Roma, vai Marco. Dimmi Marco. Dimmi. Ciao. Sono perfettamente d'accordo con la collega chirurga che mi ha preceduto. Sì, come stai chiamando? Con l'auricolare, col viva voce? Con il viva voce. Ecco, sì, grazie. Se puoi toglierlo, ti ringraziamo moltissimo. Vai. Oh, ci sei o no? Beh, insomma, dai Marco, dai, parla. Allora, anch'io il problema grande. Richiamiamo, ragazzi, richiamiamo. Non riusciamo a collegarci bene. Antonio da Roma, dai, Antonio. Vai, Antonio, dimmi. Buonasera, ciao Giuseppe. Dimmi Antonio, no, ragazzi, dobbiamo richiamare queste persone, non si sente niente. Oreste da Teramo, dai, Oreste, dimmi. Senti? Oreste, dimmi, dai. Giuseppe, allora volevo dire questa cosa qua. Io questa mattina mi sono visto un video per quanto riguarda il coronavirus fatto dal dottor Stefano Montanari. Sì, che spiegava questa grande presa in giro a livello mondiale di questo coronavirus. Ma cos'è, l'antivaccinista? No, Montanari è un esperto di nanopatologie che nei giorni scorsi, che adesso sotto accusa perché lo vorrebbero togliere di mezzo questi video che circolano, comunque vorrebbero in qualche modo che Montanari non parlasse. Io sono contrario a qualsiasi tipo di censura, non sono d'accordo con quello che dice Montanari, fra poco vi farò ascoltare qualche cosa più avanti, forse abbiamo tagliato dei pezzi di un'intervista che ha fatto recentemente al sito BioBlu, in cui sostiene sostanzialmente che è poco più di un'influenza, che i vecchi devono addirittura uscire, addirittura uscire, devono prendere no, aria, devono stare fuori al sole, devono stare all'aria aperta, perché stare dentro casa li uccide. Questo sostiene Montanari. Dopodiché, che vuoi, Oreste? Non ho capito. Niente, volevo semplicemente sottolineare questo. Volevo invitare questi cazzo di italiani del cavolo, questi ignoranti, a spegnere questa maledetta televisione che continua a dare informazioni distorte. Ma anche la radio. Quali sarebbero? Ma quali sarebbero? Non ho capito. Quali sarebbero? Spegni anche questa radio. Quali sarebbero? Non ho capito. Quali sarebbero? Non è che ha ragione Montanari e invece i media tradizionali hanno torto. No. E allora di che cosa stai parlando? Sicuramente le informazioni che ci vengono alle 18, oggi non c'era Borrelli perché è in auto quarantena, si è auto isolato, è dimostrato che sono delle puttanate. Cioè, sono dei dati non realistici. È chiaro, uno, quella roba lì io infatti non l'ascolto più perché sono dati non realistici. La Zanzara. Questa cazzo di retorica, questo piano sotto ogni servizio che fanno in questa merda di televisione. Gli angeli, io sono un infermiere, sono in prima linea. Avete rotto il cazzo. Non è la questione lavorare 20 ore al giorno dopo di essere lì, ma la qualità. Uno stato serio ha dei professionisti messi nella condizione di lavorare, non degli eroi, non servono gli eroi, dei professionisti messi nella condizione di lavorare al meglio, che facciano le assunzioni, e la gente che ha tagliato la sanità che paghi ora tutto questo, devono pagare con la galera. Io parlo da cristiano, da sacerdote, insomma, cioè non possiamo immaginare che noi adesso, fin quando non si troverà il vaccino, non possiamo più andare a messa, insomma, così stanno in terra, insomma. Andiamoci piano di guidare la messa, punto primo, punto secondo, andiamoci piano a considerare la messa attraverso la radio, attraverso la televisione, come se fosse una messa, ma scherziamo. Qui si fanno degli errori madornali, la messa è la messa, la partecipazione alla messa è fondamentale, bisogna immaginare un futuro con questo stop and go del virus, dove si possa andare a messa sia nei giorni feriali sia la domenica. Ragazzi, vi ripeto ancora la questione del video Rai. Questo era Fanzaga, ragazzi, no comment. La preoccupazione di Fanzaga è la messa. Io capisco che possa essere la messa la preoccupazione per qualcuno, ma cazzo, ma fate la messa, d'accordo, ma fate la messa in video. Qual è il problema? No, però Fanzaga, No. Io se fossi stato sacerdote mi sarei fatto arrestare dai carabinieri facendo messa, perché i sacerdoti, se ci credono davvero, sì, dovevano disobbedire alla legge e dire messa. Questo è vero. Dovevano farlo. Questo è vero. Perché la legge divina è superiore a quella degli uomini. Questo cosa è buono. Cazzo obbedisci? Questo è buono. Devi essere un martire. C'è gente che si è fatta mangiare dai leoni, cazzo, nelle catacombe, e questi prendono lo stipendio come gli impiegati statali e non dicono messa. È una cosa inaccettabile. Devo dire che questa volta hai ragione, nel senso che è inaccettabile. Cioè, questi inaccettabile. Qua che dicono di avere, di essere, diciamo, di rispondere soprattutto a Dio, poi non è che puoi, certo, rispondere pure alle leggi terrene su una cosa così importante come la messa. Anche perché se tu sei convinto che pregare serva, fai 1000 messe, dovresti farne 20 al giorno, dovresti avere le chiese aperte giorno e notte con migliaia di persone per salvare le anime, e non stare sul divano come uno che prende il reddito di cittadinanza. Che prezzi ci sono in giro? Allora vi faccio ascoltare Trump. Grande Trump, in inglese ve lo faccio ascoltare. La gente vuole tornare a lavorare, stare a casa è peggio. Se continuiamo così morirà più gente, non possiamo perdere il vantaggio. Insomma, Trump vuole tornare tra qualche settimana a produrre, a fare, non si può stare dentro. We have to get our country back to work. Our country wants to be back at work. And again, the cure, it's like this cure is worse than the problem. Many people, in my opinion, more people are going to die If we allow this to continue, we have to go back to work. Our people want to go back to work. Magari dopo vi faccio ascoltare pure un conduttore radiofonico americano molto conservatore che si chiama Glenn Beck, se non sbaglio, che dice una cosa incredibile. Se tu hai a cuore il tuo paese, anche dopo i 60 anni, è meglio morire per la patria piuttosto che rovinare il paese. Tutti gli ultra sessantenni dovrebbero andare a lavorare e rischiare di morire piuttosto che rovinare il paese, cioè guardando al di là avanti, dice gli ultra sessantenni, che sono quelli più a rischio, lui dice, dovrebbero lavorare apposta per il paese. Beh, se la tua religione è lo Stato, dovresti fare così. È una visione hegeliana in cui l'individuo si sacrifica per la collettività. Alessandro, no, certo. Da Treviso, vai Alessandro, dimmi. Dimmi, buonasera, Alessandro. Cruciani. Dimmi. Pronto? Buonasera, Cruciani. Dimmi. Io ero un po' di giorni che avevo un'idea in testa, un malessere dentro che mi turbava e oggi ho trovato conferma in Taormina di voler denunciare questo governo criminale. Sì, Taormina, che fra poco chiameremo, signor Taormina ha deciso di denunziare il governo e non so chi altro, le autorità, per epidemia colposa, per i 5.000 morti. Professor Carlo Taormina, sempre che Parenzo torni, perché ancora non si capisce che ha fatto. Alessandro da Treviso aveva un malessere dentro, intestinale, che poi ha trovato così consolazione in Taormina. Sì. Cos'era, stipsi? È inquietante. No, Gottardo, un malessere molto serio. Okay. Vabbè, allora tutti i morti che ci sono. Io credo che dovremmo Taormina è la cura. Chi crede a denunciare questo governo per omicidio, per strage addirittura. Ma per favore. Per strage e per l'impreparazione che hanno dimostrato. Ma allora scusami Alessandro. Alessandro. È vero, e non voglio fare propaganda politica. Però molti si ricordano che nel 2003-2004, quando c'è stata la SARS, il governo Berlusconi fosse pronto, gli ospedali fossero pronti. Ma era tutta un'altra cosa. Aveva una contagiosità più bassa. Antonio da Roma, fermi. Antonio da Roma, vai. Sì, pronto, buonasera. Dimmi Antonio, dimmi. Sì, ci siamo sentiti un mese e mezzo fa che tu... Sì, non ti sentivo bene, dimmi. Sì, mi senti, no? Sì, ti sento, dimmi. Un mese e mezzo fa io ti dissi questo aggravamento che c'era, il governo non l'aveva presa seriamente. Io ti dissi per me seria, tu mi hai detto, vabbè, sarai contento se domani ci saranno casi, vabbè. Comunque è un problema tuo, perché magari la pensavi così. Però per me questo qua dovrebbero andare a casa, perché andasse a fare l'avvocato, perché non ci capisce niente. Ma purtroppo lui si trova una nazione che siamo terz'ultimi nel mondo. Prima eravamo sesti nel 2000. Nel 1980 eravamo sesti. Vabbè, ho capito, adesso non è che possiamo rimpiangere gli anni 80, dai. Sì, siamo terz'ultimi su cosa? Ma terz'ultimi che cosa? C'è stato un Vaccaro che ha sistemato la situazione. Chi? Noi ci troviamo in questa situazione. Un Vaccaro. Ma chi è il Vaccaro? Gente, ci arrivi, chi è il Vaccaro? Ma chi è il Vaccaro? Scusa, non parlo con un 120 kg di merda. Io voglio parlare con Giuseppe. No, 107. Tu vammi a denunciare, 107. Così ci troviamo in tribunale e ti faccio vedere il culo che mi hanno rotto in carcere. Capito? Quindi le hanno rotto il culo. Quindi Antonio le hanno rotto il culo. Questo conferma. 120 kg di merda. Sei. Antonio, però lei implicitamente. Di merda. Bene, capito? Ma allora assoluto questo. Però l'altra settimana che dicevi di andare in giro, pezzo di merda. Certo, se uno ha meno di 60 anni, il rischio di morte è quasi teorico. Vediamo, ti faccio vedere. No, ma Antonio. Ma quindi gliel'hanno rotto? E quindi gliel'hanno rotto il culo, Antonio? Scusa tanto, perché una persona mi dispiace. Superiore a te, tu non capisci. Ma gliel'hanno fratturato? Calma. Non torniamo indietro. Devi andare a denunciare, così ci incontriamo. Ma perché vuoi incontrare Gottardo? Spiegami, perché lo vuoi incrociare? Così lui, dato che ha dato l'altra trasmissione che io ho il culo rotto, no? Ma non ha fatto una domanda. Le ho fatto una domanda. Te lo faccio vedere, incontriamoci. Ma no, ma io però, guarda, non capisco. Era una domanda. Scusi. Per disgrazia in carcere tu, e se ci vai, ma, scusi, e dici che sei ma gay, scusi, Antonio, lo sai perché? Ma scusi, Antonio, mi stai a sentire? Perché? Mi stai a sentire? Perché? Se ma, tu gli dici che l'ascolto. Sei gay, ti mandano al G9, al G9 sono tutti gay, perché se vai al G3... ti fanno il Sant'Antonio, sai che cos'è il Sant'Antonio? Cos'è il Sant'Antonio? Sono anche da Padova, io non lo so. Lo cos'è. Vuoi sapere che cos'è il Sant'Antonio? Sono da Padova, di Padova, dove stava la cosa del mafioso, di quel pezzo del mezzo. Cosa vuol dire cos'è Sant'Antonio? Che cos'è? È un bastone di legno della scopa, il vecchio manico di scopa. Ma non si fanno più queste cose. Non si fanno più. Con burro e peperoncino e te lo mettono nel culo a te. Ma non si fanno più. Ma non si fanno più queste cose. Sant'Antonio. Antonio, ma allora dimmi quindi che mia... sei gay, perché Antonio, se con quella voce tua da femminile Antonio, come... ti fanno il Sant'Antonio. Beh, insomma, femminile, sono baritono. Ma senta Antonio, no, però se allora... c'hai una voce femminile, ti faranno il Sant'Antonio insomma, in carcere. È un po' difficile. Allora senta, dimmi, però, guarda che Antonio, io sono gay, così ti mandano. No, ma io non ho mai detto. E lì sono tutti gay, non ti fanno io niente. Non gliel'ho mai detto, vabbè, le ho solo chiesto. Se dimmi, dimmi, dai, vai, vai. Ogni volta ne devo incosare con te io. Dimmi, Antonio, io non voglio avere niente a che fare con te. Dimmi, dimmi. Tu sei un essere indegno. Ma perché vuoi denunciare? Perché vuoi denunciare anche tu il governo? Non ho anche tu sei d'accordo nel denunciare il governo? Sì, sto d'accordo io sul governo, sì, Antonio, perché tu non mi puoi mettere gli arresti domiciliari. Io ho una moglie che è invalida al 110% con l'accompagno. Ho una figlia separata sola con una bambina di 4 anni che c'entra quello? Quello piove sul bagnato però. A me mi ha messo. Ma vada da Maria De Filippi, di solito c'è posta per te. Ma che si va? Aspetta, aspetta un attimo, voglio chiarire la situazione. Ma sto parlando di cose serie, mi mette bocca. Aspetta, Antonio, allora tu hai. Allora, chiariamo la situazione. Situazione tipica di molti italiani. Cioè, io di molti italiani. Una situazione un po'. Io grazie pure che ce l'ho avuto il coronavirus. Però io, dato che sono andato dentro una baracca, Giuseppe, senza meno c'ho l'antivirus. Ah, quello può essere. Perché io ho avuto grande dolce, ho avuto grandi raffreddamenti, ho avuto la febbre e poi mo adesso sto così. Ma tu sei quello che c'ho il padre comunista anche, no? Il papà comunista, io, così sì, o no? Il padre comunista mi ha rovinato la mia esistenza, la mia infanzia, la mia esistenza, la mia tutto mi ha rovinato. Vabbè, questo adesso so fare. Tu Giuseppe, comunque tu hai, aspetta un attimo, Antonio, tu hai una, specifichiamo la cosa, tu hai una moglie che è invalida al 110%. Che vuol dire al 110%? Non ho capito. Che è invalida con l'accompagno, ci vuole l'accompagno. Ci vuole l'accompagno. Poi ho mia figlia separata con una bambina che abita da sola con una bambina di 5. Vabbè, questo però adesso voglio dire, dunque tu non la faccio uscire, gli porto la spesa io. Perché la fai? La lascio dentro il box, se la Ma perché non può andare a lei a fare la spesa, scusami Antonio, non ho capito. Ma no, dovrebbe essere il contrario, Antonio. In giro a bambina. Dovrebbe essere il contrario. La bambina. La bambina a rischio zero. La fa finita. A rischio zero, Antonio. Ma senta Antonio, però vammi a denunciare, lei... ti voglio incontrare. Ma Antonio, mi scusi. Capito? Però se lei non... mi scusi, Antonio. 120 kg di merda. Bene, 107. Sembra sia tornato Parenzo. Aspetta, sembra sia tornato Parenzo. Ciao Antonio. Ciao. Ok, vabbè, chiudiamo con Antonio. Ci siamo di nuovo. Vai con Taormina, chiamiamo Taormina. Vai, avanti tutta, vai. Pronto? Professore? Sì. Sono Cruciani, come stai? Che stai a dormire? Sto lavorando. C'è la voce, ma voce bassissima. Sono tutti in galera. Tutti i criminali sono in galera, che stai lavorando? Tutto chiuso. Vabbè, ma solo perché stanno in galera bisogna lavorare. Scusami, ma leggo che stai per denunciare tutti. Come? Stiamo preparando. Ma chi vuoi denunciare? Scusami. Ma la denuncia è un esposto, l'ho fatto all'autorità giudiziaria. Per sapere se come stiano le cose in modo tale che si sia tutti tranquilli. Cioè governo e scienziati vari vuoi denunciare per avere sottovalutato la cosa? Perché cosa? Per omicidio? Perché cosa? Beh, certo, il problema è del contagio, l'epidemia colposa che è un reato espressamente previsto dalla addirittura legge, epidemia colposa. Certo, è un reato previsto dalla... Ma come certo? Ma che dici? Ma perché deve far perdere tempo alla magistratura, rompere i coglioni ai tribunali in un momento così? Perché devi inventarti delle cose pur... ride, sì, è sciagurata, rispose. Sono 5.000 morti che potevano non essere. 5.000 morti, 5.000 morti. Quei morti sai come sono morti? Quei morti sono morti perché non hanno avuto la possibilità di essere assistiti come dovevano, perché erano, sono sopraggiunti in tanti e le strutture ospedaliere non erano pronte, quindi non stiamo a discutere. No, ma questo è una guarda, cosa troppo seria. Su questo guarda, io Carlo, su questo io ti do perfettamente ragione. È una cosa troppo seria. E beh, ma è tutto là, è derivato tutto da quello, perché se il 31 gennaio, così come è stato dichiarato lo stato d'emergenza di seguito a quello che aveva raccomandato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si fossero fatte le misure che sono oggi operative, tutto questo non sarebbe successo o sarebbe successo in proporzione di noi. La stai scrivendo sta denuncia o no già? Ma guarda, certo che la sto scrivendo, ma non è una... Cioè ci sono le prove, questo è il punto, le prove ci sono. L'ha detto Galli, l'ha dichiarato Galli. Le prove ci sono, ho le prove. Occhio che non finisca come Cogne, attenzione che non finisca come Cogne. No, te lo dico sottovoce. Attenzione che aspettiamo ancora il super testimone. Aspettiamo ancora il super testimone. Vatti a vedere l'intervista che hai rilasciato il 20 marzo Galli. Dichiara di essere rammaricato per essersi sbagliato alla fine di febbraio e dichiara che i morti di oggi sono figli di quell'errore, lo dichiara lui espressamente. Dunque, per queste omissioni qua, eventualmente la galera addirittura, perché leggo qua tu scrivi governanti e tromboni travestiti da scienziati in galera. Certo, e ma che cosa ci vuole? Certo. Da cosa? Chi in galera? Chi dovrebbe finire in galera? 5.000 morti a chi li metti a conto, scusami, sai. Fate dunque, voi, secondo te vanno messi in galera? Secondo te alla fine vanno messi in galera chi? Presidente del Consiglio, chi? Ministro della Sanità? Ma me ne frega niente chi va in galera, a me mi interessa soltanto che siano accertate le responsabilità. Ma chi sarebbero sti governanti? Allora facciamo nomi e cognomi, dai. Allora, Conte. Scusami. O i governanti sono stati traviati da imbecilli di consulenti, oppure i consulenti hanno dato le indicazioni esatte e i governanti se ne sono sbattuti. E per ragioni di carattere vario, politiche e quant'altro, sono stati disattesi. Lo vogliamo sapere o non lo vogliamo sapere? Sì, dobbiamo saperlo assolutamente. La verità la dobbiamo sapere. Non ho capito, Davide, perché lo pigli per il culo. Ma mi spieghi perché lo pigli per il culo? Ma non no, ho ma dai, ma è una denuncia gravissima. È una denuncia gravissima. È gravissimo quello che è accaduto. È gravissimo. Certo dai, che è gravissimo. Ragazzi, certo. Non scherziamo. È grave, ma che, voglio dire che Taormina faccia l'esposto denunzia in una fase come questa, perché ha messo insieme le dichiarazioni di Galli dalla televisione e per avere un po' di notorietà va a presentare l'esposto denunzia. Ma siamo seri, su. Siamo seri, professore, dai. Ma chi gliene frega, dire esattamente la stessa cosa di te, ma cerco di astenermi perché voglio adesso ti inviteranno in trasmissione a dire questa cosa, l'esposto denunzia. Tu sai benissimo che le cose stanno esattamente come dico io. Tu sai benissimo che ho ragione, però io la soddisfazione e la tu invece stai attento, stai a casa, non uscire di casa, riposati, usa questi giorni per riposarti a casa, morti, non andare in ufficio. Di 5.000 morti che non potevano non morire, perché lo dichiara Massimo Galli, primario del Sacco e ordinario di epidemiologia, credo che sia una cosa assolutamente incontestabile. Quindi verrà lui a testimoniare. Quindi porterai lui il super testimone della mia fede. Lui è il super testimone. Ma come se la vede lui? Scusami. Galli c'ha un sacco di robe da fare. Lo vuoi? Galli c'ha un sacco di robe da fare e tu lo chiami come super testimone. Ma che lo chiamo io? Lo chiamerà l'autorità giudiziaria, non io. No, ma sei tu che hai detto che è il tuo testimone! Sei tu che hai detto che è il tuo super testimone! Io non ho nessun testimone, ma non capisci niente, io non ho testimone, io ho dato l'indicazione all'autorità giudiziaria di fare un accertamento per capire come sono andate le cose. Hai preso due dichiarazioni di Galli, il metodo Taormina, c'è una dichiarazione, lo prendi e dici questo è il mio super testimone. Per quale ragione si è fatto così in ritardo quello che si fa oggi e tu sei qua a dirmi queste stupidaggini? È il metodo Taormina. Hai visto la dichiarazione di Galli e hai detto è il mio super testimone. È il super testimone. È il super testimone. No, è il professor Galli. Tutto qua. Ma comunque, ma come fai a dire che è il tuo super testimone? Come fai a dire che è il super testimone? Questo. Ma io non sto dicendo questo. Sto dicendo che Galli sente una dichiarazione, la prende e dice il super testimone. Che è la, una dichiarazione fatta alla stampa, è il metodo, il super testimone. Non c'è da ma nessuno scherza, io scherzo sul fatto che tu hai preso una hai sentito uno in televisione, hai preso la sua dichiarazione ed è diventato il tuo super testimone. Si chiama metodo Taormina. Cerca di essere almeno una volta riflessivo. Tu pensa a quello che sta succedendo e pensa lui che apre i giornali, vede super testimone quantomeno in queste proporzioni. Ma che vuoi? Ma che vuoi di più? Io ti sto dicendo, vatti a vedere, hai detto il super testimone, le dichiarazioni. Abbiamo poi dici, abbiamo le dichiarazioni. Ma non le abbiamo, le ha dette in televisione. Non abbiamo le dichiarazioni. Abbiamo le dichiarazioni di Burioni, l'ha detto in televisione. Ma e allora che cazzo vuol dire? Ma che c'entra Burioni? Ma le prove ci sono, le dichiarazioni. Ma prove, ma vatti a vedere il sito di Galli e trovi la dichiarazione. Abbiamo le prove. Vatti a vedere ma le prove ci sono o no? Le prove. Che prove di chi? Di che cosa? Di chi parlate? Ma che di quale dicendo? Prove? Ma non vuoi capire. Ma non vuoi che stai capire? Dicendo tu? Non puoi capire. Abbiamo vuoi le prove. Serio, che è la prova? Serio. La dichiarazione di Galli. È una cosa gravissima quello che ha detto. Mamma mia. Fammi capire. Mamma mia. Abbiamo le dichiarazioni. No. Abbiamo le prove. Scusi, signor avvocato. Quali prove? Ha parlato in televisione. Perché mancava il letto di... della terapia intensiva, fammi capire, e mancavano mi manda perché sempre erano troppi ed erano troppi perché non sei pervenuti subito. Abbiamo le dichiarazioni. Abbiamo le dichiarazioni, ha parlato pure Burioni. Sono dichiarazioni gravissime. Ma che gravissime, ma è inutile che fai queste piroette, perché le cose stanno semplicemente così. Hai letto una notizia, hai detto è una cosa gravissima, lo ha detto lui. Mi dice scusi, chi l'ha detto? L'ha detto lui, no? Che me frega a me. Tutto in vacca finisce sempre. Ciao Carlo, ciao. Tutto in vacca, sì, ciao. Le denunzie di Taormina. Roberta da Milano, vai Roberta, dimmi Roberta. Sì, ciao, volevo solo dire una piccola cosa a Gottardo sull'intervento che ha fatto sì, Roberta. Prima dimmi. Eccoci. Su che cosa? Roberta. Sui preti, dimmi. Sui preti, sul fatto che è incavolato perché non sono andati contro le ordinanze. No, lui dice fossero coerenti, sì. Siccome Fanzaga protestava prima. Siccome Fanzaga protestava, sì. Le messe sono indispensabili, eccetera eccetera, uno se sì, risponde ma non a Dio. Pubbliche. Le messe i sacerdoti le fanno. Lui vorrebbe anche le messe, vorrebbe le chiese aperte. Il pastore non abbandona il gregge. Il pastore non abbandona il gregge. Fare un omicidio di massa mi sembra una cosa assurda. Un omicidio di massa perché? Ma perché? Ma in virtù di cosa? Organizzare una messa pubblicamente quando c'è un problema di un contagio mi sembra una cosa assurda. Sì, mentre andare a fare la spesa, è sicuro. Ma scusi, amica da Milano. Allora, ci sono delle cattedrali in tutte le città che sono enormi, sono più grandi dei supermercati. Perché i vecchi possono andare ai supermercati rischiando di contagiarsi molto di più che nelle cattedrali? Perché andare al supermercato è indispensabile e andare a messa. E chi, no? Lo ha detto che non è indispensabile invece per un vecchio andare a raccomandarsi l'anima a Dio? No, infatti, lo decide lei. Non è necessario che vada in chiesa per raccomandarsi l'anima a Dio. Va tutto bene, sì, ma chi se ne frega? Ma infatti, dal Papa in giù sostengono invece che la messa è fondamentale. Dunque, in teoria, uno. E allora che la facciano? E allora che la facciano? No, che la facciano per i poveri cristi? I sacramenti sono fondamentali. Dunque Brossio sostiene per esempio che i sacramenti devono essere dati comunque e si potrebbero fare anche delle messe col distanziamento eccetera, però la questione è questa, e che Gottardo prima sosteneva una cosa: se uno vuole essere coerente, siccome risponde a Dio dovrebbero battersi per fare la messa. Ma risponde a Dio non contro gli uomini, cioè comunque vorrebbe dire fare qualcosa che danneggia l'essere umano. Ma chi lo ha detto? Ma chi lo ha stabilito che danneggia le persone? Non le danneggia di più che andare al supermercato a prendere l'auto? Stanno dicendo tutti in qualunque modo di non fare degli assembramenti umani e i preti bene, si mettono e a fare dopodiché delle tutti al supermercato qui, dopodiché tutti in autobus. Vabbè, quello che c'entra è diverso, dai, supermercato in autobus non è diverso, ma è che diverso. C'è supermercato e la messa sono due cose diverse, dai, su, fermi là. Vabbè, fermo, ciao Roberto, ciao. La Zanzara. Giustamente De Donald, perché la gente che vince le vie da vi pallo, capisci? De Donald sta preparando 1300.000 miliardi da distribuire alle aziende americane e alle famiglie. E invece de merda, o Giuseppe Conte e de cornuto figlio di bottanas di Gualtieri, andate che ne sta danno. Che cazzo ne stanno danno quando stanno facendo morire la fame? Dovete mandare 2.000 euro a testa ad ogni italiano, se no fra un paio di giorni vi prendiamo a forcata nel culo, a colpi di pala, di mazza in testa, figli di pulla, ci siamo rotti i coglioni. Ciao Beppe, io mi porto avanti, seguo i consigli del professorone, ho fatto il bagno, adesso vai di phon, doppia velocità in gola, avanti così, non si arretra, avanti così. Allora ragazzi, vi faccio riascoltare quello che è successo, due giorni fa qui alla Zanzara, quando abbiamo invitato uno dei leader dell'animalismo italiano, Paolo Mocavero, associazione 100% animalisti. Mamma signor mia. Mocavero ha sostenuto le seguenti tesi, cioè tesi. Lui gode quando un cacciatore muore, in generale. In più ho visto che c'era anche qualche cacciatore, evidentemente cacciatore di una certa età, che in questi giorni sono morti a causa del coronavirus. Perché chi se ne fotte, chi se ne frega, scusami, dov'è il problema? Cioè, non ho capito per, perché... per le altre persone, massimo rispetto, mi dispiace un sacco. Cioè, dei cacciatori morti per coronavirus, non te ne frega un cazzo. Ma non esiste, un cacciatore è un uomo di merda, se muore io godo, devono morire tutti questi pezzi di merda. Voi dite quello che volete, io dico quello che penso. Una roba incredibile. Cioè, se muoiono in questi giorni cacciatori da coronavirus, non te ne frega un cazzo. Ma chi se ne fotte? O muoiono perché per coronavirus? Cioè, tu dici, magari li ammazzasse tutti il coronavirus, magari. Magari, questa sarebbe una bella cosa. Dunque, se muoiono i cacciatori di coronavirus, tu sei contento, va bene? Magari li eliminasse tutti, lo sterminio dei cacciatori attraverso il coronavirus. Cruciani, tu vuoi lo sterminio dei cacciatori con coronavirus? Cruciani, ti sto rispondendo, per dimmi. Tutte le altre persone sono dispiaciuto come te, come David, come Alberto, ok? E per i cacciatori come no. Come molti altri animalisti, ok? I cacciatori me ne sbatto i coglioni, devono morire tutti. Dunque, se il coronavirus li fa fuori tutti così di un botto, mettiamo che sia selettivo, i cacciatori tu saresti contento. Vabbè, ma sembra un colpo di culo, altro che superare la lotta, ragazzi, ma scherzi, un colpo di culo mai visto, ho detto, ma scherzi, ma figurati. Allora, questo Mocavero, abbiamo in collegamento Pietro Fiocchi, che è europarlamentare di Fratelli d'Italia, che è produttore di cartucce, nonché cacciatore, cioè racchiude praticamente il top dell'odio, secondo Mocavero, naturalmente. Fiocchi, buonasera, eccoci qui. Buonasera, Cruciani. Allora, fammi capire, Fiocchi, hai sentito queste cose di Mocavero, no? Ti senti, ti ha praticamente detto del pezzo di merda, sostanzialmente si augura che tu ti prenda il coronavirus, tra l'altro non so dove l'abiti tu, forse in una delle zone più, no? Più colpite dal coronavirus. Io sono di Lecco e vabbè, volevo innanzitutto ringraziare il signor Mocavero per le gentilissime parole dette a mia moglie alla fiera di HC. Aspetta che è collegato pure lui, fermo là, Mocavero ci sei? Certo, sto ascoltando l'ingegner Fiocchi, ecco. Certo, che cosa hai detto? Che cosa hai detto a sua moglie? Se ricordo, non mi ricordo della puttana assassina e maldracca anche. Addirittura ma può darsi aveva la pasta, che ne so, io adesso non mi ricordo, signor Fiocchi, non mi ricordo. Cioè, tu hai dato aspetta ragazzi, aspetta, chiariamo questa cosa qua, scusami Mocavero, tu hai dato della puttana, dell'assassina, allora, della baldracca? Ascolta, allora parliamo subito, mettiamo le cose in chiaro. Se parlate tutti e va cavallata le voci, no, parlo e svengo, okay? No, ma nessuno si accavalla qui, mi stai accavallando anche adesso, vedi? No, ma mi ti sto dicendo, hai detto queste cose o no? Una domanda, rispondendo. Vai. Rispondere, io rispondo. Dimmi. Alla fiera della caccia, adesso non so che cazzo era quella specie di donna che è venuta a filmarci insieme appunto a questo signore qui, ok? Dopodiché chi viene a filmarsi, a provocare, si becca una raffica di parole e la polizia non a caso gli ha fatto fare una figura di merda. Vabbè, adesso, signore, che vuol dire? Che vuol dire? Vabbè, non mi fai parlare allora. Vabbè, no, dai. Ti sto chiedendo che vuol dire figura di merda, adesso non è che possiamo ricostruire. Penso che l'ha cacciato via, la signora è venuta a provocare, la polizia sa che se qualcuno viene a provocare rischia di prendersi due belle pizze in faccia. Ovviamente. Però perché hai detto specie di donna? Un attimo, non alle donne ovviamente, però il signor Fiocco era là presente. Sì, vabbè, come cazzo si chiama, dai, tanto che cazzo lo conosce. Quindi, e la polizia ha detto, vede, dovete, siamo con l'onorevole Fiocchi, e chi cazzo se ne frega, l'hanno cacciati via, questo per farti capire quanto non conta un cazzo. Vabbè, scusami, al di là di quello che conto non conta, tu hai detto che quello... Lui si crede importante, ma in realtà non conta un cazzo, chiariamo questa cosa. Allora, l'assurdo che le persone rispettose dalla legge vengono mandate via, mentre dei violenti mascherati in contrario alla legge vengono protetti da decine e decine di poliziotti che sono lì a impedire le vostre violenze, e noi paghiamo i contribuenti come però scusami Fiocchi, tu confermi che Mocavero ha dato della puttana assassina Baldracca a tua moglie? Sì, ci ho anche filmato, brillantissimo. Però scusa, Mocavero, scusa un attimo, specie di donna non si dice, però specie di donna, sarà la moglie... Vabbè, quello che era, insomma, dai, un Leamaro era comunque, dai, Leamaro. Che vuol dire Leamaro in dialetto? Che vuol dire, Alberto, scusa? Viene dal latino letus, letame, è la cacca delle vacche e dei cavalli, il Leamaro. Vabbè, comunque, Fiocchi, io non ho capito ancora, sei rimasto colpito dalle parole di Mocavero oppure no? Oppure è tutto normale? Le parole di Mocavero l'altro giorno in cui sostanzialmente ha augurato lo sterminio, si è augurato lo sterminio dei cacciatori. No, ma è in linea con la loro filosofia, cioè devono morire tutti gli uomini, tutti i cacciatori, tutte le categorie che a loro non piacciono, e l'importante è che vadano avanti loro con la loro visibilità e i loro fondi che prendono in maniera veramente esagerata. Beh, fondi, cioè adesso non mi pare che Mocavero prenda fondi, però adesso a prescindere da tutto non penso che Mocavero riceva fondi. Ne prendono di più i cacciatori per onor del vero, almeno in Veneto. Ma questo non è vero, perché le associazioni ambientalisti e animalisti ricevono oltre 1 miliardo di euro l'anno. Guardi, penso di poter escludere però nel particolare, nel concreto, che Mocavero prenda dei quattrini dal pubblico. Alberto lo può testimoniare, noi siamo l'unico movimento italiano di animalisti che non prende un cazzo da nessuno, anzi noi facciamo delle cene benefit, ovviamente vegane, per dare dei fondi agli altri. Però Alberto, scusami, se posso dire ci mancherebbe altro che il pubblico desse dei soldi a te, tra le altre cose comunque. Ma no, il pubblico, io sto dicendo che non prendiamo solo, no, forse mi sono spiegato male, allora ho detto semplicemente che noi organizziamo delle cene benefit, non prendete soldi pubblici, vabbè. Li ricavato lo diamo a legattare. Però scusami un attimo, tu confermi di fronte a Fiocchi che è un produttore di cartucce, produttore di cartucce e cacciatore. Cartucce esistono. Questo signore uccide gli animali. Uccide gli animali. Allora qual è il problema? Perdonami un attimo. È l'ultima cosa, ripeto, perché ogni volta mi parlate sopra, non si capisce una sega. Ma non sto parlando, solo io sto parlando. Sì, esatto, la signora, come cazzo si chiama, eccetera, è venuta a provocarci telefonino. Ma che telefonino, che è una provocazione? Tu sei alto e grosso, che ti frega della signora che riprende col telefonino? Dai, non devono, forse non si è capiti allora, non devono provocare. Ma che non provocare? Fiocchi, sei una merda, no. Te l'ha confermato, devi morire. Sì, ma lo so che sono una merda, ma visto che sono condannato a morte ho il diritto all'ultima parola. Ma a parte insultare e a minacciare di morte i cacciatori, cosa avete fatto per gli animali, per la protezione degli animali? No, ma lasciamo perdere questo argomento, se no apriamo una parete. Tra l'altro, i cacciatori hanno dato dei quattrini per il coronavirus, tra l'altro, no? Possiamo dirlo, cioè alcune associazioni dei cacciatori hanno mollato dei quattrini. Però lui dice sono quattrini pubblici, sono sovvenzioni, Mocavero. No, questo è una bugia pazzesca, una fake news incredibile, perché i cacciatori, oltre a pagare 200 milioni di euro all'anno di tasse, e a generare un indotto circa l'1% del PIL italiano, e fanno qualche centinaia di migliaia di ore di volontariato ambientale. Non ho capito, però non ho capito bene una cosa, scusa, Mocavero, perché stanno pensi... Stanno donando di tasca proprio alcuni milioni di euro, ma di tasca propria. Non però scusami, Mocavero, non ho capito una cosa, perché consideri chi produce delle cartucce una merda? Questo non riesco a capirlo. Cioè, secondo te... Le cartucce cosa te le fighi sopra il culo? Cosa servono? Ad ammazzare animali? Che cazzo stai dicendo? Beh, ho capito, ma posti di lavoro, posti di lavoro, posti di lavoro perché? Beh, posti di lavoro perché tu vuoi che Fiocchi fallisca, tu vuoi che Fiocchi fallisca, non ho capito. Ma chi se ne frega del Fiocco, che cazzo me ne ascolta a me di questo personaggio qua, che poi tra l'altro è di Alleanza, una cosa è Fratelli d'Italia, Nicola Meloni che si fa vedere col gatto e dopo c'hai i cacciatori dentro nel partito, il partito di Fratelli d'Italia, il partito dei cacciatori, è giusto che la gente lo sappia, gente che ammazza gli animali. Ma guarda che la gente non è che... Scusami, la gente guarda che loro non si vergognano per niente di questo, cioè non è che si vergognano di questa roba qua. Infatti si vede, basta vedere la faccia che hanno, te credo, se non si vergognano la faccia che hanno, come si vestono da coglioni alla mattina, cosa vuoi che ti dica? Una cosa, stavo dicendo, noi per gli animali, noi gli animali li salviamo, loro li ammazzano. Vabbè, Fiocchi? Ma sono completamente in disaccordo con quello che dice. Vabbè, ma quello è chiaro che sei in disaccordo. Voglio capire, c'è uno che ti dice che tu devi crepare col coronavirus, perché il punto è questo. Vabbè. Che voi siete in disaccordo mi sembra normale, ma la cosa incredibile è che questo qua dice io spero che il coronavirus vi stermini, cioè vi elimini dalla faccia della terra, non ti suscita. Ma allora questo approccio che io non riesco a capire, perché allora diventiamo tutti vegani, non andiamo più a caccia, non uccidiamo più gli animali, città, città. Ma come facciamo a nutrire la popolazione mondiale? Cosa andiamo avanti a fare? Ma quelli hanno le loro teorie. Ma quelli hanno le loro teorie. Che cazzo devo dire? Ciao amici miei, ciao a tutte e due, ciao. Lorenzo da Cagliari, vai. Dimmi Lorenzo, allora, dimmi. Allora, Beppe, Dave, Berto, mandiamoci subito a fanculo a vicenda, così saltiamo i convenevoli e possiamo tenere l'intervento a livelli di cacciara abbastanza accettabili. Allora, premetto di non essere un virologo, ok? Ma semplicemente un umile professore del liceo, ok? In questi giorni, sei un professore di liceo? Esatto. Sì. In questi giorni, come sapete, stiamo facendo lezioni a distanza con tutti i casini del ministero. Vabbè, allora... Ok, niente, fondamentalmente mi trovo quotidianamente a dover rispondere alle domande dei miei alunni sul coronavirus, ok? Non essendo un virologo e essendo io per primo uno scettico, mi sto trovando giorno dopo giorno a diventare un complottista. Nel senso che al di là dei primi giorni in cui loro erano completamente sballati dal fatto di non dover andare a scuola e si ammazzavano ore sugli porn, quello che rimane oggi è il fatto che dandogli spiegazioni su quello che succede oggi e leggendo le cose che abbiamo letto, dovendo fare fronte ai video come quello di cui avete parlato voi poc'anzi, ma cosa dimostra quel video, scusi? Cosa dimostra quel video, caro professore? Cosa dimostrerebbe quel video? Una roba del 2005, in tutti i laboratori fanno esperimenti. Del 2015, ma quindi qualche anno fa. Qualche anno fa. In tutti i laboratori fanno non solo esperimenti, ma la ricerca scientifica. Fammi sentire, Lorenzo, evidentemente pensa che non sia così. No, ma per dire uno che. Ma un video del 2015? Cosa dimostra? Voglio capire cosa dimostra. Davide, ascolta, io per primo ho letto l'articolo di Nature sulle origini prossimali del virus, che non possono essere minimamente tracciate a qualcosa di laboratorio. Ho letto quello che è scritto Gimentana con l'appoggio di Burioni e tutto il resto. Non sono certo un complottista col cappellino di Stagnola che se la prende con i rettiliani o col complotto. Vabbè, allora? Tranquillo. Quello che ti voglio dire io è che però, analizzando le cose, cioè i mezzi, avevano i mezzi, le motivazioni e i precedenti. Guarda i mezzi, questo laboratorio, come è uscito dal video, era stato tacciato di fare degli esperimenti completamente fuori dalla grazia di Dio, dalla stessa comunità scientifica. Ma non ho capito, Lorenzo, ci credi a quella roba là o no? Io questo voglio capire, poi non mi interessa il resto. Ci sto scivolando, però come buon senso, Beppe, cioè, mi capisci? No, non ho capito il cazzo. Fra Enrico da Roma, dai, Enrico da Roma. Ah, dimmi. Dimmi. Buon senso del delirio. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Io volevo dire una cosa, no? Sì. Ma allora, sono stati dati per anni, miliardi agli immigrati che vengono qua. Vengono dati ogni anno miliardi a chi sta a casa a grattarsi le palle, che prende il reddito di cittadinanza, e per gli imprenditori che hanno versato contributi, rendono grande il suo paese, ancora stanno a decidere che manovre usare. oppure per gli operai che comunque vanno a lavorare a cassa integrazione in dubbio e loro continuano a prendere reddito di cittadinanza comunque, ma vi pare un paese normale questo? Ma non è che possono normale, sospendere adesso il reddito di cittadinanza? Ma come no? Sospende sì, ma sta a casa a grattarti le palle, questo pure è vero. No, ma da un certo punto di vista ha ragione anche Enrico, è difficile tecnicamente, però lui ha ragione, lui sta andando a lavorare, rischia, ci sono soldi dati magari a certe ma ci sono soldi magari non a sufficienza per le partite IVA, lui è una partita IVA immagino Enrico, no? No, io sono dipendente, però mi metto anche nei panni del principale mio, che comunque siamo 30 operai e a cassa integrazione. C'è gente che continua a prendere reddito di cittadinanza in questo momento senza nemmeno provare a trovare un lavoro perché non lo può trovare. Ma di che parliamo? In questo momento poi. Esatto. Giustamente questo qua è incazzato, ma è incazzata tanta gente che... Ma sarà anche incazzato, ma uno che prende reddito di cittadinanza adesso e gli dici pure non trovi lavoro adesso che è il momento più alto della crisi, ma che gli devi dire? Gli devi togliere il reddito di cittadinanza? Mica ho capito, ma che delirio è? Scusa. No, ma non è che uno deve togliere il reddito di cittadinanza. Enrico dice di sì, perché in una situazione di grave... Ma è una follia, ma cosa vuol dire? Ma proprio adesso, cioè non guadagnava prima e proprio adesso... No, ma certo che non si può, però non si può. No, però, ma è anche solo averlo pensato mi sembra un delirio. Però scusa un attimo, Enrico dice che il reddito di cittadinanza si prende per trovare un lavoro, no? In questo momento tu non fai un cazzo, non puoi nemmeno trovare lavoro. Poi per carità è difficile togliere soldi in questo momento. Francesco da Rimini, vai. Allora, io volevo dire che le razze umane esistono e questa storia del coronavirus è l'ennesima dimostrazione. Cioè, perché in che senso? Scusa, le razze esistono. Perché mi volevo ricollegare a quello che aveva detto l'infettivologo Galli ieri. Insomma, gli africani non prendono il coronavirus, secondo lui. Esatto, è una follia. È una follia smentita dai dati in Italia. Allora, Bastardo, ieri sei stato un po' tracotante, non conosci le cose, quindi non dovresti parlare. Adesso ma ho letto Burioni. Vada a San Raffaele con Burioni e vedrà che ci sono molti africani, molti asiatici ricoverati. Nessuno nega questa cosa. Fammi parlare. Allora, Galli ha semplificato per rendere comprensibile il concetto. Quello che voleva dire lui è che negli africani probabilmente è minore l'espressione di quei recettori. Questo per dire cosa? Non ho capito, Francesco. Che le razze esistono? Per dire che le razze esistono, ma in medicina io posso fare decine di esempi in cui esistono, per dimostrare che esistono le razze, cioè anche il banale ECG, se io faccio un ECG e trovo delle alterazioni, alzo lo sguardo. Mi sembra una cazzata, ciao Francesco, ciao. La Zanzara. Ho scritto una poesia sul mese di maggio, la volete sentire? È bellissima. Allora, la poesia si intitola Maggio, maggio tutto cazzo, è finita. Buonanotte. I'm a vampire. How'd you find her? Chi era quel cretino di poc'anzi? Like a gunshot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Già, ma zio, stai... Fanno Marcus, per quella terrorista di Miguel, già faccio più naso e porto più. A come se mamma ti indono, e se vengono ci ho più guerto da un culo, ragazzi, la cama pulit. E che gli ha pulit, se mi hai intaggiato un matarazzo. Intaggiato un matarazzo, io mi abito a corrido, dove? E gli ha fatto pipì. Ma la pipe, che mo gli lavo tanto bagno, fatta sette da cuce. Mo che sette da cuce, piglia vende per 10 minuti. Ma è pozio bagno, non che perché ingra bagno. Mettete fuori un balcon. Mettete fuori un balcon che gli lavo andare da cuce. Mettete fuori un balcon, come si aggiola che faceva. Ma non li aggiola, vende per 10 minuti. Ma è tre, si fa fuori un bagno. Quale bagno che ho? Ha di fatto un pianto quasi una cosa e quello si può fare montare vestiti cristiani di fronte alla signora cadava te che stai a fresco si è retro tutte cose come vedi da qua mi hai fatto ghiacciare cosa? Foggiano che impazzisce per la convivenza in casa con la moglie, almeno da quello che ho capito nelle mie reminiscenze dialettali. Io ogni tanto metto queste cose qui perché senza nemmeno tradurle, perché non serve. È incomprensibile. Cioè, e lo so, è Foggiano stretto, almeno da quello che mi risulta. È il suo bello. Allora abbiamo il collegamento bello della serie Cosa fanno le porno attrici. Eccola qua. Cos'è il suo grido, diciamo, il suo simbolo, la sua griff, il grido di battaglia, la sua il grido di battaglia. Sai che gli indiani avevano il grido di battaglia. Esatto, eccola qui. Non so se in questo periodo faccia queste cose. Non credo. Cosa fanno le porno attrici, almeno quelle più conosciute? Ma non è in anticipo sull'orario questo appuntamento? No, ma che anticipo? Col sesso. Non che è in anticipo. In genere è dopo le 20:35. No, in genere. No, è in anticipo sull'orario. Valentina Lappi da casa sua. Ah, ciao. Santa subito. No, l'ho vista mai. 8 volte. Valentina Lappi l'ho vista già 8 volte stamattina. Come hai visto 8 volte? Sì. Che cazzo fai? Mi dà il buongiorno. Valentina Lappi mi mette di buon umore. Fatto una sega con un porno di Valentina Nappi? No, la contemplo e basta. La contemplo e basta. Adesso contemplare non interessa nemmeno trovo a lei. Trovo offensivo di fronte ad opere d'arte come Valentina Nappi usare la masturbazione. Valentina Nappi è un'altra categoria, va contemplata. Sì, però Valentina, se non ci fossero le persone che si segano, non guadagnerebbe nulla, giusto Valentina? Cioè, no, questo qua è il fidanzato di Valentina Nappi. Chi è il tuo fidanzato? Chi è? Sì. Bell'ambiente. Che sta facendo? Scusa, sta urlando il matto. Fa finta di stare male. Scusa, ma come va innanzitutto questa convivenza forzata col tuo fidanzato da 20? No, vabbè, non è forzata. Eravamo insieme anche prima. Adesso non possiamo cacciarci a vicenda di casa perché a parte questo. No, non è forzata. Beh, è forzata, sì, è forzata perché non puoi uscire per i cazzi tuoi, per esempio. Cioè, non puoi uscire, non puoi fare nulla. Per esempio, dal punto di vista sessuale, come va la situazione? Tu che sei abituata? Ma per ora sono soltanto 2 settimane che prendo soltanto il pisello del mio ragazzo. Ma in riesci? Passato sono stata anche 6 mesi. Come dici? Ho passato 6 mesi senza fare solo col mio ragazzo. Ah, per cui per te non è un problema, insomma. Cioè... No, penso mi adatterò, non lo so. Beh, sì, vabbè, certo. Non c'è dubbio. Vediamo quanto durerà questa quarantena. Sì, ma voglio capire la vicinanza secondo dopo secondo, questa è la domanda, no? Perché una cosa è sapere che dopo uno può andare via. Ma siamo insieme da quasi 11 anni. Quindi... Appunto, ormai praticamente, come cazzo fate ancora dopo 11 anni a fare sesso? È questo che mi sorprende. Cioè, l'amore. L'amore. Mi dispiace se non abbia mai avuto esperienza di cose del genere. No, per carità, il grande cuore di Valentina Nappi. Cioè, tu mi stai dicendo che in queste 2 settimane sei riuscita, nonostante lo stress, magari questa storia del coronavirus, la paura, beh, che tu sei donna anche giovane, dunque insomma è abbastanza difficile che ti prenda il coronavirus, non sei nemmeno in una zona particolarmente infestata. Beh, in realtà da queste parti hanno fatto un rave cattolico e c'è cioè una zona in cui non consegnano, i quartieri non consegnano perché hanno tutto il coronavirus. Sì, no, ma non era un rave, era una specie di riunione, sì, in un paese là vicino, no? Sì, vabbè, mi piace chiamarlo rave cattolico. Rave cattolico. Ma tu sei particolarmente contenta della chiusura delle chiese, per esempio. Ah, cioè... sì, per quello godo tantissimo. Ma infatti, chissà, se si prolungherà fino a Pasqua... Sarebbe bellissimo, non si farà la messa di Pasqua. No, ma scusa, ma chi se ne frega? Ma chi gliene frega a lei? Lei non ci perché va, faccia le sue cose a casa e i suoi filmini. Vanno a messa. Io mi sono dovuta passare in campagna per non sentire le campane, penso un po'. Ma che disturbo fa parte della nostra cultura? Che per non sentire le campane? Io non ci vado, ovviamente. No, non le campane delle chiese. Le campane delle chiese sono una cosa di artisticamente meravigliosa e sono una. Ma certo. Sono una... Ma solo a casa tua, no? Che non sentisti anche le case degli altri. Comunque, parliamo di cose serie. No, ma non ho capito. Tu, per esempio, speri che vada oltre Pasqua? Speri che vada oltre Pasqua addirittura? Non lo spero. Io temo che purtroppo per uscire da questa situazione ci vorranno minimo 2 mesi. Vabbè, questo è un altro discorso. Parente, sì. Perché i VIP perché? Hanno accesso ai tamponi. Sì, vero, vero. E vero. I medici no. Questo è uno scandalo, sì, questo non c'è dubbio. Bravissima, no, ma questo Valentina, non c'è dubbio. VIP, però. Molto su questo, lucida, su, molto questo su questo mi trovi, cioè, assolutamente VIP, d'accordo, chi? Non sulla i calciatori su... purtroppo. Perché i calciatori, Salvini va a spasso con la fidanzata a fare la spesa e io non esco di casa due settimane? No, ma non è ogni tanto lui dice che è andato a fare la spesa. Vigili. No, non ci sono le foto. Lui sostiene che è andato a fare la spesa. Poi sai. Sì, ha ammesso di essere andato a fare la spesa ed era spasso con la fidanzata. Certo. Io non esco da due settimane perché tra me e lui, dato che io sono ancora in pieno jet lag, è il mio fidanzato che va a fare la spesa. Io non ho messo un piede fuori casa da quando sono tornato dagli Stati Uniti. Sì, vabbè, questo però poi per andare a fare la spesa potresti andare a fare la spesa. Invece ci va il tuo fidanzato. Ci va il tuo fidanzato. Solo una persona alla volta, perché Salvini ci va beatamente accompagnato con la fidanzata. Vabbè, adesso non lo so che stava facendo. Certamente, voglio dire, non è stata una bella dimostrazione, diciamo, di seguire le regole. Se non è uscito, se ha fatto una passeggiata. Io una volta sono andato pure con la mia fidanzata a fare la spesa e poi... Ma non si può fare, ci devi andare vabbè, da solo. Allora, questo è successo due settimane fa. Adesso, nelle ultime due settimane... Non ci sono mai andati, cioè, è sempre andato una sola persona. Cioè, ma qual ma è poi problema? Che differenza fa se io vivo con la mia fidanzata e vado a fare la spesa con la mia fidanzata? Cosa cazzo cambia? Cosa cazzo cambia? Due malati. Siete due virus che camminano e non uno. Sì, ma se uno mantiene le distanze, è davvero difficile. E si mette da la mascherina? Se uno si mette la mascherina, io vado in giro con 10 neri. Va bene, perché sono fidanzata con 10 neri, vogliamo fare così? Ma no, questo però, no, questo però è oggettivamente, se uno vive nella stessa casa in 4-5 persone, dice vado a fare la spesa in 4-5. Ma lei, comunque, Valentina, se posso permettermi, avrebbe preferito fare la quarantena col fidanzato o con 10 neri? La questo non è male. Questo ma non tutti è... e due. Tutti e due, cioè... Ah, in 11 quindi, che si poteva giocare anche a calcio. Lui va a fare la spesa, cucina e tu trombi con 10 neri, questa potrebbe essere una buona cosa, no? Sì, vabbè, trombo anche con il mio fidanzato, ma anche 10 neri, facciamo magari 5-5. 5 nere, 5 nere. Come calcetto, non buttiamo via come nulla, calcetto, sì, 5-5. Ma poi magari giochiamo anche al calcetto. Malena mi ha comunque la cosa sui tamponi tu hai perfettamente ragione, comunque sai che se Valentina Nappi chiama in realtà il tampone glielo fanno, cioè non ti mettere, cioè anche tu sei tra i VIP. Tutti i tamponi che ha preso. Tutti i tamponi che mi faccio tutto l'anno. Appunto, dico, cioè, se tu chiami, eccola, l'ospedale o l'ASL, sono pronto solo Valentina Nappi, lì si precipitano a casa tua a farti il tampone una decina di infermieri. Ho paura anche di, non lo so, per qualsiasi problema in questo momento, perché mi pare di capire che se vai in ospedale il coronavirus in questo periodo te lo becchi. Comunque la roba dei VIP, il tampone, però la roba Valentina sì, Nappi, esatto, potrebbe essere un titolo di un prossimo film, il tampone. Scriveremo il plot della storia, no? Appassionante. Lei a casa da sola col fidanzato, si ammala di coronavirus. Puoi fare solo il tampone homemade. Ah, solo homemade. Ma stai girando qualche cosa, no? In casa col tuo fidanzato, magari. In questo esatto momento, mentre parliamo, sì, sto montando una scena nave con Johnny Sims, il mitico pelato di Brothers. Stai montando tu da sola per i tuoi social, per i tuoi canali, diciamo, no? Sì, per il mio sito. I tuoi canali. Dunque, sostanzialmente, cioè, non fai mai scene col tuo fidanzato. Potresti fare in questo periodo? Sì. No, giro anche con il mio ragazzo. E dunque, magari metti online cose col tuo fidanzato, canali. No? Canali. Sì, ma ci sono già. Anche canali. Per quelli li stai facendo anche col tuo fidanzato in questo periodo, nel periodo di clausura, diciamo. Ma allora, mi sono truccata una volta nelle ultime settimane, quindi non so perché mi sto ancora riprendendo dal jet lag, però sì, giro col mio ragazzo, non è una novità, lo facciamo da anni. Senti, ma Malena ci ha detto l'altro giorno, Malena Mastomarino, Malena la pugliese, che lei si masturba in questo periodo però solamente se guardata, cioè solamente con lei è diverso perché sta da sola con la madre a casa, cioè solamente... Madonna. Lo so, che deve fare, ognuno ha le sue cose, cioè, però solamente se tu non ti masturbi mai in questo periodo di clausura, no? Perché c'è il tuo... No, io mi masturbo sempre. Tu ti masturbi, quante volte al giorno, più o meno? Ma in genere lo faccio almeno prima di andare a dormire. Sempre almeno una volta al giorno prima di andare a dormire? Sì, perché dato che io e mio ragazzo abbiamo orari diversi, ho bisogno di quell'orgasmo per spegnermi e addormentarmi. Ecco, ma tu allora per stare bene, vai di vibratore, per stare bene, di quanti orgasmi hai bisogno al giorno? Per stare bene, proprio una media? Dipende, non è, sono periodi in cui più voglio, periodi in cui meno voglio. Però almeno uno al giorno, sicuro, almeno uno al giorno è matematico. Ma faccio al giorno, poi il medico di torno, però sì, non anche... è sempre così. Senti, no, una cosa, tu sai che qualcuno ha detto che gli extracomunitari, quelli che vengono dall'Africa, sostanzialmente non prendono il coronavirus, è stato detto in questi giorni. Bene. Cioè, una cosa abbastanza incredibile, se ci pensi. Beh, però... anche le donne sono, sembra... Sì, anche le donne, forse perché quelli che vengono all'Africa in realtà sono giovani, però il professor Galli l'altro giorno ha detto questa cosa qua, sembra... Forse hanno un sistema immunitario più forte, dato comunque fanno una vita diversa rispetto a... Però la cosa ti rallegra. Con tutti i cubi che lecco, per esempio, credo di essere abbastanza immune. Perché, perché? Che c'entra leccare i culi? Però, lecca i culi. Vabbè, ho sistema immunitario, dato che faccio porno, faccio sesso con tante persone, viaggio il mondo, eccetera. Credo di avere un buon sistema immunitario. Vabbè, però non è legato alle pratiche sessuali il sistema immunitario, però. Sì, non credo. Sì, cioè, è come richiamo del tetano, cioè, tu dici, lecchi un culo. Tu dici che alla fine le pratiche certe pratiche sessuali o comunque il sesso hard, una porno star, il sistema immunitario più forte? Come no? Perché chi lo dice? È tipico che molte ragazze quando cominciano tendono ad ammalarsi di continuo. E poi passa. Strano che non abbiano parlato alla conferenza alle 18 della Protezione Civile di questo argomento. Mi risulta molto strano. Ma scoperesti che con un cinese? Nessuno abbia sollevato questo argomento. In Italia, ma scoperesti con un cinese? L'ho già fatto. Un cinese no, era filippino. Ma con un cinese? Oggi con un cinese, scoperesti con un cinese? Fosse... Sì. Senza problemi, cioè, senza nessun problema. Sì, spero abbia il cazzo sopra la media, però. Ma quello non lo so, cioè, tra un cinese e un leghista, che ne so, tra un cinese e un leghista. No, meglio il cinese. Vabbè, meglio il cinese. Ciao, sempre. Ciao amica mia, ciao. Ciao, ciao. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. La zanzara. Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! Erba calabrese, produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Qualcuno ha dell'erba! Ne ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Italia! Malena la pugliese che dice che l'ultimo cazzo che ha preso è stato quello di Rocco sul set, mia moglie ha concluso stoicamente dicendo: beh, dai, se non altro è chiuso in bellezza, zia. Giuse, torneremo a leccare la figa pelosa, eh? Torneremo. Mannaggia, mi sei stu cazzo de corona. Ragazzi, io provo grande stima per il nostro vate Rocco Siffredi, però la faccenda della masturbazione non doveva tirarla fuori, ragazzi, non doveva, perché qui dovete capire che la gente in casa sta facendo fondere i siti porno, cioè la gente si sta levigando l'uccello, il mio uccello si è levigato a forza di pippe. E se Rocco Siffredi ci viene pure a dire che è utile, noi prendiamo la palla al balzo, ci consumiamo il pisello. Se qui la situazione è grave, porca miseria, è grave. Mi sembra che tu te ne fotta un po', Gottardo, di questo coronavirus. No, un sei po'. Un po'. Ma moltissimo. Dai, però scusami, è più probabile in Italia morire di morbillo che di coronavirus in questo momento. Vabbè, ma non puoi essere così, dai, su. Certo. Chiaro. Parole chiaro da non dimenticare, no? Per uno della mia età? Per uno della mia età, certamente. Vabbè, però in quel momento non hai specificato, diciamo. Beh, ma perché tu togli un pezzettino, magari stavamo parlando dei quarantenni come me, e allora bisogna vedere cosa c'era prima e cosa c'era dopo. Ma è evidente, per me è praticamente impossibile morire di coronavirus. Allora, adesso è una cazzata, questa qua è una cazzata. È praticamente impossibile, c'è una possibilità su 10.000 probabilmente. Ma ho capito, certo, in questo momento se fai tutto come si deve è difficile, però che c'entra? Potresti avere... Perché stai in casa, No, io la radio la faccio fuori, la faccio davanti a me. Ma che c'entra? Poi vai in treno, vai in macchina, vai in mezzo alla gente, vai... Certo. No, ma ti metterò la mascherina, mi auguro, se no ammalati e vaffanculo, cosa vuoi che ti dica? Ma sì, ma mi magari già, puoi essere, Marco, però, se puoi essere anche un portatore. No, la cosa bella è che puoi essere anche un portatore per gli altri. Cioè, ma puoi essere mica uno a tossire in faccia alla gente. Sto a 10 metri ma da chiunque. Ma non c'entra, come si vede, non basta quello perché la gente ti oggi sta a 10 treno, metri comunque. Oggi da in treno chiunque, l'unico, ero l'unico sul vagone. È arrivato solo un tossico dipendente. Ma ti credo, ma ci sarà un motivo. E allora non sono un rischio né per me né per gli altri. Ma non c'è da essere matti. Per le persone che normalmente incontri, che ti stanno attorno, uno prenderà delle precauzioni. Sono andato a lavorare. Ma posso andare a lavorare? Tutti gli altri sono dei poveri permesso. Stronzi. Ma certo, ma tutti gli altri sono dei poveri stronzi, quelli che stanno eseguendo. No, sono dei quello poveri che chiede, stronzi cioè, come chi me. Può lavorare sono da casa. Sono dei poveri stronzi cioè, come me. Ti dicono chi può lavori da casa. Ti sì, dicono tutti c'è chi può lavorare scusate, da casa. Scusate, tu punto, anche potresti lavorare punto da casa. Questo, no, scusami, non è vero. Aspetta, non aspetta vero. Ragazzi, al di là di lavorare da casa o no, Gottardo, il comunque, tuo contributo è così importante. Secondo me, tu quanti anni hai? Scusami, Alberto, quanti anni hai? 42, 40? No, ne compio 44 il mese prossimo. Però 44 anni, adesso che tu dica è impossibile che io possa morire di coronavirus. No, questo è molto improbabile. È più probabile che mi prenda sotto una macchina. No. Ho una possibilità su 20, in questo 30 momento, mila. In questo momento no. Sotto in la macchina no, in questo momento in questo è un po' momento, difficile. Allora, in una regione ma non ci sono macchine in giro. Ma scusami, nella regione che frequento io, che è il Veneto, ok? Dove sono morti circa 200 persone di gente come me. Sì, d'accordo, però non è che puoi dire impossibile, okay? Cioè no, è molto improbabile, è davvero molto improbabile, è molto più probabile. Allora, fermi, ha chiamato Donato, vai, Donato. Pronto? Dimmi Donato, dimmi, che è successo? Niente, ma io vorrei sapere cosa nessuno fa di quel... Diciamo, aspetta, ti sento poco, Donato, ti sento poco. Pronto? Cazzo. Però è un dai, bene ti sento, questo. Ti sento, dimmi. Pronto? Ti sento, dimmi. Siamo quel vile vignettista della vergogna Vauro, quel basso nemico del capitalismo, sì, quel porco baboso con i denti da cammello. Io vorrei sapere come si è permesso di ingiuriare Bertolaso, peraltro che ha contratto il Covid-19, sì, mentre lavorava per salvare le nostre vite. E ha fatto un cartello dicendo no, non sono arrivati qua le mascherine, sono arrivati qua i preservativi. Io voglio sapere, questo pezzente mentale da chi è protetto? Protetto, non è protetto da nessuno, protetto. Però quella è satira, si potrebbe dire, dai, satira? Donato. Quella... Io che contraggo il coronavirus e qualcuno fa dell'ironia sulla mia malattia, un uomo che era stato deputato per andare a creare una situazione così emergenziale, questo Donato, lungo, è... sporco rosso, che peraltro non fa altro che dire che quel porco di Stalin, il più grande carnefice della storia, sono i nazisti, i 10 milioni di ucraini, sai, l'hanno ammazzati gli indiani d'America. Ma che c'entra Stalin con Paolo? Però, perché tu, Donato, dici... allora si può fare dell'ironia. Io faccio dell'ironia sulla tua impotenza, impotente da Varese, sì, e uno fa dell'ironia. Faccio dell'ironia, io invece faccio dell'ironia per motivo, perché tu sei stato miricolato per stare in un posto dove non hai versato una goccia di sangue. Non hai versato una goccia di sangue, non hai versato un cazzo. Io non ho nessuna velleità, però almeno fammi la cortesia, non parlare col culo a cospetto della mia persona. Ma perché? Che è successo? Non l'ho capito. Ma la goccia di sangue dove? Un trust di cervello. Io voglio soltanto dire, chiamate quel porco di Vauro e passatemelo al telefono. Chiamatemi quel porco di Vauro che la fa sempre franca. Ma non vorrà mai parlare con quel te. Quel delinquente ammaestrato. Ma ha fatto, una cosa, ha fatto una vignetta. Ha fatto una vignetta, è satira, dai, su. No, ma tu non la capisci perché sei un cretino, ma è satira, dai, Donato. Poi quel travaglio. Ma tu ti stai masturbando, Donato, travaglio, invece? Parlavamo di masturbazione travaglio. Prima. Ti masturbi tu ogni tanto? Il giustizialista del mio cazzo che ormai da anni si è fatto i soldi su Berlusconi. Che non funziona. Travaglio, il tuo cazzo che non funziona. Se permessi di dire che Bertolaso, invece di creare nuovi posti, ne ha occupato lui. Ma uno. Anche quello. Ma che ironia è questo? Lasciatemi su questo ha ragione. Su questo ha ragione Donato, è la prima volta che ha ragione Donato, su questo ha ragione Donato, cioè non si può fare ironia su un uomo che ma che c'entra delinquente? Vabbè, delinquente, dai. Adesso, ma delinquente. Però, ma no, ma che c'entra? Ma, non ma il suo ma non se però se fosse stato di sinistra, il delinquente Travaglio sarebbe stato però posso dirti, posso dire un altro uomo, un altro giornalista del cazzo, protetto da chi? Posso dirti una cosa, Donato? Allora, oggettivamente, come battuta satirica, il fatto che Bertolaso, che è stato preso... Sì, però preso è ricoverato all'ospedale. Sì, ma certo, è ricoverato all'ospedale oggi, diciamo, lui l'ha scritto stamattina. Poi, vabbè, a Travaglio si sa, non piace Bertolaso. E non piace Bertolaso. Il fatto politicamente non piace Bertolaso. Sì, però posso dirti... Posso dire, ricoverato una all'ospedale. Sì, certo, però il fatto che uno uscito dica... indenne da tutti i procedimenti penali. Quindi no, quello non lo so, non mi interessa quello che ha fatto prima Bertolaso. Sì, tecnicamente punto, sì, ma il punto non è nemmeno quello. Lui ha un modo di scrivere feroce Travaglio nei confronti certamente di, di una serie di persone, anzi forse di tutti, tranne forse non è stato ipocrita. Però ma al di là di Travaglio, scusami, però Donato, la questione è molto semplice. Quando Travaglio usa la penna per dire Bertolaso doveva creare posti letto perché è stato preso per creare posti letto e invece ne ha occupato uno. Certo, è una cosa feroce. Non si fa spirito su queste cose, te lo giuro, non si fa spirito su queste cose. Vedi cosa succede a tenere la gente dentro casa? Vedi Donato, tu eri già instabile prima, adesso dentro casa sei diventato completamente impazzito. A mettersi di fronte ai suoi colleghi a parlare, no, sempre dalla Lulli Gruber, la Bilderberg, hai capito? Travaglio è un giornalista dal mio punto di vista, ancora peggio, peggio di Mauro. Mauro è proprio il letame di tutti i letami. E io voglio allora, la frase è questa, aspetta, la frase è questa: la Lombardia era perfettamente in grado di tirar su un ospedalino da 300 posti alla Fiera di Milano, a parte che non è un ospedalino, e non è vero che è facile tirarlo su, comunque senza scomodare Bertolaso. Senza scomodare Bertolaso dal Sudafrica, ma ora che Mr. Wolf, più che creare posti letto, ne ha occupato uno, gli auguro sinceramente di guarire presto. Sulla salute non si scherza. Comunque, insomma, alla fine, cioè, alla fine c'è pure, non c'è feroce solamente la prima parte, c'è anche la seconda parte. Buon augurio. Ciao, Donato. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, ciao. Vittorio da Lodi, vai, Vittorio, dimmi. Sì, pronto. Dimmi. Ciao, buonasera innanzitutto. Ho qua davanti il dato del report dell'Istituto Superiore della Sanità. Sì. Dunque, aggiornato al 20 di marzo. Decedute totali 3.000. Oggi è 25, però. Lo so, però questo è l'ultimo. È l'ultimo. Aggiornato al 20 di marzo. Allora, deceduti 3.200. Di questi deceduti, allora, 1.309 tra gli 80 e gli 89 anni. E 1.134 tra i 70 e i 79 anni. 329 tra i 60 e i 69 anni, 93 tra i 50 e i 59 anni. Aspetta, aspetta, fammi finire. Cosa voglio dire? È brutto dirlo, è cinico, ma qui si sta bloccando un intero sistema economico, un'azione, cioè la parte più sana del paese, più produttiva, si sta bloccando e si rischia che i rimedi, la cura, creano dei danni peggiori della malattia. Lo dice Trump, lo dice Trump. No, lo dicono i dati, cioè io è brutto dirlo, lo so che è cinico, ma vale la pena tutto questo? Punto interrogativo, vi faccio questa domanda. Nella classifica dei decessi è al sesto posto. Prima ci sono i tumori, problematiche cardiovascolari, il diabete, obesità. Ma non è quello il problema. Il problema è che non devi infettare l'80% della popolazione che poi va a intasare, come in Lombardia, la terapia intensiva. Bergamo, muoiono, non riescono neanche ad intubarli. Allora, questo è il problema, capito? Delle strutture della sanità. Questo è un altro problema. Non è tanto prendere per un giovane il coronavirus. Lui dice un altro problema, quello della sanità è un altro problema, però lui sta dicendo ne usciremo se non riapriamo presto con un piano, perché ci deve essere un piano di riapertura. Se non riapriamo presto saremo massacrati, ne usciremo peggio, questo sta dicendo. Ma è verissimo, cioè, è verissimo. Il presidente di Confindustria ha detto che perdiamo 100 miliardi di euro al mese, ok? Ed è vero. Andrea da Monza, vai Andrea. Scusate un attimo, perché me signore di prima ha detto una cosa vera, ma no, se lasciamo tutto aperto e si ammalano tutti gli italiani, chi cazzo va a lavorare? Ma adesso si ammalano tutti gli italiani, le previsioni che si possano... L'85% degli italiani non ha neanche la febbre quando prende il coronavirus, lei lo sa? Questo io non lo so. Ma poi allora si documenti, Mi scusi. Comunque, secondo un'indagine di Oxford, la popolazione della Gran Bretagna è già stata contagiata. Ma sì, ma è chiaro. Della metà della popolazione della Gran Bretagna. Cioè, e come mai Boris Johnson, anche lui, alla fine ha chiuso tutto? Non lo so. Perché ha ceduto al populismo. Ma ha ceduto a quello che voleva il popolo. Vabbè, Andrea, come che diceva mi dire, Giulio Andrea, Cesare. Andrea, che mi volevi come dire? Come diceva Giulio Cesare. Volevo far luce su una cosa di cui si parla poco in TV. Cioè, che allora, cosa? Io sono dipendente della GDO. Cioè, grande distribuzione, che cos'è? Grande distribuzione organizzata, alimentare. Allora? Io sono un macellaio e volevo far portavoce di quello che subiamo tutti i giorni dai signori che vengono a fare la spesa. Da chi ti bestemmia presso, a chi si... Vabbè, dunque, qual è il punto? Scusate, allora niente. No, ma siccome devo chiudere, dimmi qual è il punto? Sei poco protetto? Qual è il punto? No, noi non siamo poco protetti, anzi, il problema è soprattutto la gente che viene e ti prende a parole, ti insulta. Perché ti insulta? Perché dovrebbe insultare uno che vende? Tu che cosa fai? Sembra una zanzara. Alle 8 meno un quarto del mattino di sabato, un signore mi ha smadonnato dietro perché mancava il borrone esposto. Vabbè, ho capito, però Andrea, quello sarà un caso. Non è che la gente adesso esce da casa e bestemmia oppure attacca i rivenditori o i macellai. Io non ho mai visto sta cosa, dai, su. Fermi tutti, dai. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Stare a casa, prendete il cazzo in mano.